stringo tutto. Non il nastro. Allora, diciamo che non mi ricordo le date perché io la storia non la so. Brava. Ma Brava, sì. Diciamo che storicamente comunque non so, e poi parte storia. Dicendo storicamente, no, è bella sta cosa. Le date non me le ricordo, ma no, iniziamo a fare così perché sennò. Però è nato nel 1818, questo so. Come si zucchero di caffè. No, quindi, ma scusa, ma per, guarda che espropriatore bastardo. E quindi nel 1848, che è la prima grande ondata rivoluzionaria europea, lui ha 30 anni. Ed è da redattore, gli scrive 4 anni prima. Scrive tra il 44 e il 45, ma poi lì... Nel 48 lo pubblica il caso comunista, no? Nel 49, è l'anno dopo, no, forse... 48, guarda, 48. E ha 30 anni, però già... mi ricorda che coincideva con la nascita del realismo francese. E inquadriamolo nel periodo filosofico. Allora, in Germania in quel periodo fino al prima metà dell'Ottocento, siamo i primi quattro decenni dell'Ottocento. In Germania naturalmente, non tedesco, aveva imperversato una corrente filosofica che fa sotto il nome di dualismo, di cui Hegel è uno dei importanti. Ora, Marx invece fa parte di quelli che sono degli studenti, è uno degli studenti di Hegel, cioè quindi comunque hegeliano di formazione, ma attraverso un gruppo anche di altri studenti cerca di superare quello che è l'impostazione di base di Hegel. E il primo, quello che forse è più importante in questo processo di superamento di Hegel, è Feuerbach. E Feuerbach avvia questo processo di ribaltamento del pensiero hegeliano, non più partendo dall'astrazione di un concetto, qual era per esempio in Hegel che era lo spirito, ma dicendo che l'elaborazione di quel concetto era frutto di un soggetto che era l'uomo, e quindi ribalta lo studio il centro dello studio della filosofia da un concetto astratto, in Hegel era lo spirito, a concentrarsi sull'uomo, sui principi legati all'uomo, quindi si può dire quasi che inizia il precursore di quello che è lo studio dell'antropologia, cioè con la figura dell'uomo al centro dello studio. Per Feuerbach poi avvia il pensiero forse più importante di Feuerbach, è quello su Dio e sull'essenza della religione, l'essenza del cristianesimo. E cerca di capire che cos'è Dio per che tipo di costruzione è Dio per l'uomo. E in realtà per Feuerbach Dio è soltanto un'entità di cui lui sente la necessità e in cui proietta tutte le sue caratteristiche. E poi lui elabora il concetto di dipendenza, una cosa del genere, cioè nel senso che ha la necessità di creare un essere di fuori da sé che sia espressione del suo alienazione. Sì. Però di dipendenza, perché lui da cui l'uomo dipende, cioè ha le necessità della figura di Dio, e quindi poi da cui poi anche Marx prenderà la questione dell'occhio dei popoli, quella. Allora, Marx è uno di quegli studenti che viene colpito dal pensiero di Feuerbach, soprattutto per il suo ritorno a un aspetto più materiale e la perdita di concentrazione su dei concetti così astratti come lo spirito, il concetto di spirito, e pensa di riuscire a fare lo stesso spostamento che ha fatto Feuerbach, però nell'ambito dell'economia. Nell'ambito dell'economia lui è uno degli prende direttamente da Smith, uno dei economisti inglesi, Smith e Ricardo, il concetto di lavoro. E rispetto al concetto di lavoro, nell'hegelismo il lavoro era un processo attraverso il quale il soggetto si oggettivava, cioè usciva da se stesso, si oggettivava, e attraverso questa nuova arrivava alla conoscenza di se stesso attraverso questo processo di oggettivazione attraverso il lavoro, cioè attraverso la produzione di un oggetto, attraverso il lavoro, l'attività produttiva nell'hegelismo, no? Marx prende lo stesso concetto di lavoro, però lo lega alle teorie di Smith e Riccardo e critica le teorie di Smith Riccardo dicendo che queste sono prevalentemente legate a un sistema produttivo in particolare e che il concetto di lavoro non è quello che Smith e Riccardo avevano elaborato all'interno di una società capitalistica, ma quello è già il frutto di una serie di relazioni, produttive che sono all'interno della società capitalistica. E queste relazioni sono prevalentemente quelle le relazioni di classe, cioè le relazioni tra chi detiene gli strumenti per la produzione e chi effettivamente compie il lavoro. Allora, questo è il progetto, lo spostamento che fa Marx. Non parte dallo studio dell'oggettivazione dell'uomo, ma parte prevalentemente dall'attività dell'uomo. Che cos'è il lavoro? Il lavoro è un sistema di relazioni umane e sociali, prevalentemente. E non è un concetto astratto al di fuori delle relazioni umane e sociali. Allora, rispetto... nello stesso periodo, prima di Marx, c'è Proudhon che utilizza lo stesso concetto di Smith e Riccardo di lavoro, introducendo un tipo di teoria socialista, dicendo che il lavoro, che si parla di lavoro astratto, poi spiegheremo che cos'è questo lavoro astratto, di Smith e Riccardo. Allora, Proudhon dice, nella società capitalistica ci sono delle ingiustizie, cioè i lavoratori non vengono pagati per quello che producono, no? Allora, per Proudhon dice, la giustizia sociale è possibile ottenerla ripagando i soggetti di quello che producono, cioè quanto producono loro, tanto devono essere pagati. Lo stesso Marx dice che questa analisi è sbagliata, perché per Marx, Proudhon pensa a un tipo di lavoro che non è il lavoro astratto, cioè lui pensa che il lavoro sia la produzione, cioè sia la produzione di un oggetto in particolare. Io lavoro, produco l'oggetto costa un tot, tu mi devi pagare quello che costa l'oggetto. In realtà invece, nella società capitalistica, il lavoro non è più questo. Il lavoro è monetizzato, diventa parcializzato ed è possibile dividerlo in unità per poi renderlo una merce. Il lavoro diventa merce, cioè io lo posso comprare il lavoro. E diventa astratto. Il tempo che io utilizzo per produrre questo bicchiere viene calcolato su una base media, per cui comunque non è il tempo soggettivo che io utilizzo per costruire questo bicchiere, ma quello che mediamente viene utilizzato per costruire il bicchiere. Viene poi diviso in parti e monetizzato. E io per la produzione di questo bicchiere, in generale stabilisco un prezzo sulle tue ore di lavoro, no? E poi allora lui dice, non è sufficiente dire io produco tipo 1000 bicchieri, mi devi pagare 1000 bicchieri, che però no, stai facendo lezione, siamo in quello che mi sento tipo esame. Ma di che? E chi ti esamina? Sei il peggiore esaminatore di te stessa, cioè. Sì, no, vabbè, c'è un po' di ansia. Stavo dicendo, sì, la questione del lavoro. Per Marx non è sufficiente fare questo spostamento, diciamo, quello che tu produci mi devi pagare, ma capire che quel tipo di lavoro è un tipo di lavoro all'interno di un sistema capitalistico che è regolato dalle relazioni sociali e che quindi per liberare il proletario non è quello di pagarlo altrettanto di quanto vanno, ma liberarlo dal sistema di produzione capitalistica, cioè liberarlo da un sistema che lo rende schiavo di un determinato tipo di produzione. Cioè l'idea non è quella dell'essere ripagato, ricompensato del proprio lavoro, ma di liberarsi da questo tipo di sistema di produzione. E allora, rispetto al legalismo, cioè la questione della storia, il concetto della... questo processo di liberazione per Marx avviene quando quelli che lavorano prendono coscienza della loro posizione di classe rispetto a quelli che detengono i mezzi di produzione e questo processo arriva al suo compimento tale per cui quelli che lavorano si ribellano e arrivano al punto più alto del procedimento della storia. Aspetta, analizziamo questa cosa della storia, che forse è meglio. Per il materialismo storico. Il materialismo storico. Beh, perché questa è in parte l'eredità più forte della Hegel. Di Hegel che in Marx. Rispetto a Hegel, per Hegel la storia è espressione della volontà dello spirito. Sì. Cioè, è la ragione. È lo spirito che lo spirito è un'entità sì, che non riguarda che non si identifica che in realtà stato. Sì, in insieme dei, sì, nello stato. Poi dopo in altre cose. E la storia è un'evoluzione di questo spirito astratto, in maniera astratta. Marx dice no, non c'è nessuno spirito. La storia è una evoluzione dialettica tra due entità, tra due classi. Quelli che detengono i sistemi di produzione e quelli che lavorano. Da sempre, lui dice per esempio nel Medioevo, nel latifondismo, nella Grecia, parla anche degli schiavi in Grecia. Arrivano e lui dice che nella produzione capitalistica si è arrivato a un determinato punto tale di evoluzione della storia, il punto più alto dell'evoluzione della storia, per cui la storia arriva al suo compimento, no? C'è un percorso. E questa cosa secondo te è come dire, no, è ancora un pezzo di Hegel, cioè c'è ancora una logica hegeliana dietro? No? Perché c'è una questione di progressione automatica della storia indipendente e di progettualità in qualche modo. Sì, quindi Marx si libera dell'idea di spirito di Marx, di Hegel. Però rimane imbrigliato nel meccanismo. Non si libera dell'idea di Hegel che positivismo storico. Ci sia una filosofia della storia, cioè sì, che la storia abbia una direzione, sì, abbia un... cioè nel senso che quello che viene chiamato anche positivismo storico, cioè nel senso beh, però poi dopo lui lo dà il positivismo storico, cioè che ci sia un'evoluzione della storia e un punto a più alto alla cui la storia tende, ho detto che comunque di base sia per Hegel che gli interventi cioè, che per alzata di mano. Vabbè, dai, facciamo. Ma no, invece che la storia abbia una logica, è questo. Ma ci sia uno. Scusa, ma allora, questo è quello che in termini tecnici si chiama una filosofia della storia. Hegel è il fondatore, o non è il fondatore perché c'era della fine. Allora, tutto questo in parte deriva dal pensiero ebraico, perché è, diciamo, la Bibbia è la prima. La Bibbia è la prima volta nella storia del pensiero umano che uno dice la storia ha un senso, perché qual è il fine della storia per il giudaico? È la costruzione, l'inveramento di Dio, delle idee di Dio. E quindi il popolo ebraico è il principale strumento di questo, perché il popolo è... Però poi riguarda in qualche maniera anche tutta l'umanità, però il popolo ebraico è quello che è. Il fulcro. E lì c'è l'idea che la storia, quindi che il tempo, diciamo, della storia abbia una freccia, sia una direzione, diciamo, lineare, no? Questa concezione del tempo storico degli ebrei, del popolo ebraico, che è totalmente minoritaria per secoli e secoli, perché tutti gli altri popoli del Mediterraneo la pensano diversamente, e tutti hanno invece l'idea di un tempo ciclico, di una sorta di ripetizione continua delle cose, no? Il tempo è un ciclo. Che poi Nietzsche riprenderà. Invece, diciamo, gli ebrei prendono la filosofia occidentale, siccome è una filosofia nell'essenziale cristiana o post-cristiana, anche nelle sue varianti laiche, l'illuminismo del Settecento è un tentativo di far diventare laiche certe idee cristiane, ma mantiene questa idea. Hegel è il massimo rappresentante di questa filosofia della storia, cioè il fatto che la storia abbia un progetto, che secondo Hegel è quello dello spirito. Marx nega che la storia abbia un progetto, e questo è il suo passo avanti. Beh, nel senso che c'è una dialettica. È una dialettica, però cui... non è che nessuno progetta lì, non c'è lo spirito che progetta. È una dialettica che però tende ad un momento alto, che è quello della liberazione della classe operaia, della classe degli operai. Comunque, questo, cioè, l'idea materialistica è nel fatto che la storia sia frutto di un rapporto di produzione tra dei soggetti e che comunque, cioè, che il rapporto tra quelli che detengono i sistemi di produzione e i mezzi di produzione e quelli che lavorano è comunque un rapporto di produzione in cui l'analisi, sì, che è conflittuale, in cui il metodo per analizzarlo è la merce, quindi è quello il materiale. Però c'è anche il fatto che comunque c'è l'idea che a un certo punto, che attraverso la lotta di classe sia possibile questo processo di liberazione, cioè che ci sia un futuro ideale nel quale l'operaio, comunque tutta la società, è liberata da un sistema produttivo. Certo. E che poi è quello che critica la Lonzi nel 77, cioè questa visione del positivismo storico, cioè dell'attendere, di lottare nell'attesa di un ideale politico, di un ideale... Marx e Hegel hanno in comune questo positivismo storico di una direzione lineare della storia. No? Marx supera Hegel nel passaggio? Perché, allora, Marx, in realtà la cosa che fa rispetto a Hegel, Marx è proprio lo spostamento verso un aspetto materialista. Cioè che fa? Cioè dice... Il legalismo era tutto su sistemi astratti e concetti ideali di spirito, di cose che erano esterne all'uomo. Marx che fa? Dice no, ribalta la situazione, dice questi qui, queste cose non sono altro che espressione di rapporti e relazioni sociali. E la stessa storia per Marx è frutto delle relazioni sociali tra due classi. E come questo, no, Hegel non è mai stato Hegel è l'espressione spirito. Ad Hegel non è mai stato un caso di no, perché no, io però non prima non si era capito. No, adesso capiamo che allora quindi si può dire questo in sintesi e Marx si libera dell'idealismo di Hegel e della presenza di questo agente globale omnicomprensivo della storia che è lo spirito. Per Hegel la storia dell'uomo è storia dello spirito che si realizza. La sua prima opera, la prima opera più importante di Hegel si chiama Fenomenologia dello spirito e spiega e racconta in una serie di figure, diciamo sempre binarie, plurisimilari, di cui quella che è rimasta più famosa è quella della dialettica servo e padrone, Hegel racconta come lo spirito diventi sempre più cosciente di se stesso e man mano che diventa cosciente di se stesso si libera da una serie di limiti precedenti, eccetera, eccetera, sino a raggiungere nella fase finale lo status di spirito assoluto, quando lo spirito diventa spirito assoluto, cioè totalmente autocosciente di se stesso, quindi in cui qui c'è l'altra... ci sarà una trasparenza totale tra gli strumenti di espressione dello spirito stesso e la realtà, quando coincideranno sarà la fine della storia, la morte dell'arte, la morte della religione, la morte della filosofia. C'è un punto in cui c'è la liberazione. La liberazione totale, perché tutte quelle cose, noi filosofia, arte, religione, sono tutte cose in cui lo spirito lotta per le gambe, le cose stanno così, però sono ancora parziali, pezzettini. Per tutto questo Marx si libera. Sì, infatti, certo. Questo passaggio è anche per quanto riguarda l'aspetto delle sovrastrutture ed è quello che lui chiama ideologia. Cioè, rispetto anche a tutte queste cose, la filosofia, la politica, i pensieri dominanti, Marx attribuisce a tutte queste cose non un valore positivo che gli aveva attribuito Hegel come espressioni dello spirito, che però non è questo. Come espressioni dello spirito. Per Marx invece la politica, la filosofia, per l'arte fa un'eccezione, però tutte queste cose sono quelle che lui chiama sovrastrutture. Anche l'arte. No, però per l'arte la salva un po'. Perché te ne ha fatto poco. Perché dice che sono sovrastrutture? Perché non sono espressione di uno spirito universale, ma sono soltanto espressione di un particolare sistema produttivo, che è in quel momento dominante, e quindi sono solamente espressione del pensiero dominante. Allora, domanda. Il concetto di ideologico. È da qui che viene tutto lo scetticismo verso determinate pratiche. Sì, soprattutto nel comunismo italiano, sì. Perché i marxismi poi, esaspereranno questa cosa, che invece in Marx è molto fumata. E l'unica cosa che Marx conta sono le lotte di classe. Certo. Struttura e sovrastruttura. Marx non ha mai negato che la sovrastruttura sia in potere, però ha detto è sovrastruttura. I marxismi, sia socialdemocratico che comunista, hanno sempre portato in nome di una prassi, di una palese, tutta casa, passate, la contrattesta, le cose che la colletta. Ieri c'era un volantino di un DT di ah, ma quale diciamo... razzismo? Solo la lotta di classe. Sì, sì, sì, esatto. Cioè, tutti questi borghesi trasfusi sono tutti eredi non di Marx, ma della volgarizzazione di Marx data dai marxismi tardo ottocenteschi. Intellettuali contro l'intellettualismo, contro l'intellettualismo. Senti, diciamo però il nome del concetto fondamentale che usa Marx. Ok, questi fatti sono di vista. L'unica lotta che il concetto fondamentale per Marx è il modo di produzione. Ah, modo di produzione. Quando tu ci sei legato al giorno, ma lui lo chiama. Marx dice la storia dell'umanità è una successione, a volte è un po' meccanico lui in questo, però, di sistemi economici che lui chiama modi di produzione. Il concetto di modo di produzione in Marx è fondamentale perché non è riconducibile soltanto alla economia, cioè c'è un aspetto economico che è fondante, ma insieme con un modo di produzione c'è tutta una serie, come dice lei giustamente, sono le relazioni che interessano a Marx, le relazioni sociali, quindi tra le classi sociali. Poi va anche detto però questo, che per Marx, mentre nelle società precedenti questa dinamica di classe era un po' offuscata perché c'era un diverso sistema di produzione, perché i modi di produzione erano diversi. Esempio, uno dei modi di produzione di cui parla Marx è il cosiddetto modo di produzione asiatico, oppure il feudalesimo, tutta semplice, la il modo sì. Semplice. Allora che cos'è il modo di produzione asiatico? È un modo che Marx ha analizzato a lungo. Quello cattivo è quello che viene prima del capitalismo, quindi ma quello asiatico, che è tipico di quasi tutte le società classiche, no? Lui mette insieme Egitto, Impero Persiano, aspetta, però... Cina, eccetera. No, aspetta, volevo chiarire la questione dell'ideologia. Questo parte dell'ideologia, però chiudiamo però sul modo di produzione, perché è veramente il concetto. Allora, lui dice, esempio, nel modo di produzione asiatico hanno un ruolo fondamentale i grandi lavori pubblici, cioè l'impero, gli imperi fanno fare grandi opere, quindi le piramidi, la muraglia cinese, i grandi palazzi, Roma, anche l'impero romano, insomma tutti i grandi imperi, e con questo modo di produzione ci sono gli schiavi certo, ma anche i cittadini liberi che poi lavorano, diciamo l'impero si dimostra in grado di ridistribuire ricchezza attraverso questi grandi lavori pubblici. Il modo di produzione mercantile, che è quello che viene fuori alla fine diciamo del Medioevo e all'inizio dell'epoca moderna, invece, è un modo di produzione in cui emerge la merce, che c'è sempre stata, lui dice, ma non è mai stata così centrale. Quando il modo di produzione diventa mercantile, appunto, perché c'è la merce. E allora le grandi opere pubbliche non che scompaiono, ma diminuiscono di importanza come centro della vita economica, la merce assume e la circolazione della merce assume maggiore importanza. Il capitalismo, secondo Marx, è l'evoluzione del modo di produzione mercantile semplice, come lo chiama lui, ed è il momento in cui la merce diventa un sistema complesso e assume su di sé, diciamo, la sua produzione e la sua circolazione sono il centro non soltanto della vita economica, ma anche di tutte le relazioni sociali che si intessono intorno. Sì. Perfetto. Allora, io volevo puntare sulla questione dell'ideologia, anche perché è una modalità di utilizzare il termine ideologia, certo, che è diversa, sì, perché per esempio quando si viene detto ma questo è ideologico, è ideologico nel senso idealista è comunque nel senso alto, cioè espressione ideologia dello spirito, è l'ideologia. Marx viene utilizzato in senso negativo. Cioè, ideologia è solamente un sistema concettuale, filosofico, teorico, che serve per giustificare uno stato di cose presenti. E per nascondere le vere ragioni, quindi, sociali che... Quando di solito si sente, questo è ideologico, si utilizza anche normalmente, è per indicare un sistema di pensiero dominante che è al servizio del potere, cioè al servizio di chi detiene il sistema. Vabbè, poi parlare del servizio del potere adesso è anche storico, però vabbè. Comunque. Senti, potresti spiegare un po' meglio la questione della legge del valore? Cioè, la stavo spiegando. Appunto, e in che cosa lui innova, diciamo, Riccardo, e in cosa invece rimane fedele a Riccardo? Perché alcune cose di Riccardo rimangono in Marx, sulla questione italiana. Poi piano, sei No, vabbè, dico, ma Posso parlare? Stavi da pensando. No, no, nel senso okay. Che può darsi pure che io non riesco a dirle tutto, non è che lo studio, non è che riesco a capitare, cioè ho letto alcuni pezzi. Ma come? Ho letto alcuni pezzi, non è che ho letto tutto. Chi è che c'è mai detto? Però allora, anche Max, cioè in un certo senso cade la visione positivista della storia, no? Cioè la visione, non ha una visione di progressione, ma in un certo senso. C'è un punto alto della storia. Beh, poi però dopo Marx sostituisce questa identificazione dello spirito. No, aspetta, perché tu dici che cade? Perché comunque sia nega è giustificato dal fatto che crede nell'evoluzione di uno spirito. Marx, spostando tutto su una questione, diciamo, più materiale, più materialista, in qualche modo già prende in considerazione che non c'è un... Sì, ma Marx arriva al comunismo. Però crede sempre... Lui è però crede sempre nella evoluzione della storia. Lui dice, non la chiama più spirito. Però dice la storia tende verso un fine, tende verso il superamento delle classi e sì, verso una società un fine senza positivo classi. Un fine che può anche andare male? Cioè no, nel senso che lui sa perfettamente quale sarà il fine. Cioè il fatto la società senza classe. Senza classe. La società è liberata. Cioè una società liberata dal sistema di... Beh, che Marx identifica nel comunismo. Sì, nel comunismo. E infatti poi c'è tutta la tutta comunismo la cosa, comunismo è un'assenza di Stato, eh. Sì. Cioè anche nello studio dei diritti, anche nello studio dei diritti, Marx non dice assolutamente, sì. Non crede nello Stato, assolutamente. Non crede, cioè crede che prima o poi lo Stato finirà. Che finirà, però dice che lo Stato, i diritti che lo Stato stabilisce in realtà, cioè i diritti di uguaglianza, i diritti di tutti questi diritti, non sono altro... No, non sono altro che il modo in cui questo sistema produttivo continua. Giustifica la presenza della disuguaglianza. Vabbè, certo, quello che... Capito? In realtà le leggi che danno pari diritti, le leggi che dicono sono tutti uguali davanti alla legge, sono tutti uguali, in realtà nascondono un sistema che invece non è egualitario. Non solo nascondono, ma lo mantengono in piedi. Un sistema che non è egualitario, che diritti, che quei diritti in realtà non, in cui quei diritti in realtà non valgono. Capito? Cioè è un'affermazione, perché è una forma di astrazione di quello che la cultura dominante che serve alla cultura dominante fondamentalmente. Sì, è un'ideologia che serve come giustificazione del mantenimento di uno stato di fatto. Per cui comunque Marx non crede nemmeno nello stato di diritto. Cioè, lui non crede nemmeno nello Stato. Alla fine di questa dialettica tra le classi si arriverà a un punto della storia in cui non ci sarà più Stato, non ci saranno più sistemi di produzione, in cui il soggetto sarà liberato, totalmente liberato. E questo avviene attraverso questa cosa della lotta di classe. Però lui dice, il rapporto della lotta di classe è... possibile analizzarlo, a parte che poi già il fatto che lui dice che è possibile analizzarlo e che ci sia una sola una dialettica, cioè che ci siano soltanto due parti in causa, significa che comunque non considera che ci sia una complessità delle relazioni, ma pensa che questo rapporto dialettico debba poi arrivare a un punto, quindi per questo poi per lui c'è una progressione verso un punto ideale, e poi che sia possibile analizzarlo attraverso un elemento che è quello della merce. E per cui attraverso l'analisi di come si evolve il concetto di merce nei sistemi produttivi, nel mondo produttivo, nei modi di produzione, lui dice possiamo arrivare a capire qual sarà il punto, cioè, si arriverà al punto in cui questa cosa scomparirà. Allora, nelle società semplici, mercantili, allora il concetto, prima di quella questione del valore d'uso e valore di scambio, allora, prima di tutto c'è il prodotto, no? Il prodotto è il frutto di un lavoro e in sé questo prodotto ha un valore d'uso. Il valore d'uso è stabilito in base alla qualità del tipo di lavoro che viene fatto per produrlo, tipo che ne so, per il calzolaio, tipo tutte le tecniche che il calzolaio mette per produrre la scarpa, capito? E anche della funzione comunque della scarpa, c'è anche una questione della funzione della scarpa. Perché è l'utilizzatore poi che decide il valore d'uso. A cosa serve la scarpa? A cosa serve? Per essere messa al piede. Quindi il valore d'uso della scarpa è far calzare il piede. E una scarpa, scarpe diverse avranno un valore d'uso diverso a seconda che soddisfino i bisogni socialmente relativi dell'utilizzatore. A seconda dei... No, M siamo già su... Stiamo lavorando sul prodotto. Che cos'è il prodotto? Questo è il prodotto. Il prodotto è un qualche cosa che frutto di un lavoro e che ha al suo interno che un lavoro concreto, in cui no, sì, lavoro concreto di un lavoro che poi sia stato una cosa. Diciamo, il valore d'uso c'è comunque anche nel lavoro del prodotto di un lavoro, poi vediamo qual è l'estratto corretto di un lavoro. Nel caso tipo del casolare, la scarpa, il casolare ci mette un tot di tempo per fare la scarpa, quella scarpa risponde a determinati bisogni e quindi quello è il valore d'uso, mentre il prodotto diventa merce nel momento in cui c'è lo scambio. E nel momento dello scambio il prodotto assume un valore che è quello del valore di scambio. Ora, il valore di scambio è stabilito sempre sulla base delle relazioni sociali, cioè non all'interno del mercato lo scambio basato per denaro per, cioè dipende dal modo di produzione il valore di scambio. Ok, per esempio società mercantile semplice, no? Io ho il contadino, facciamo l'esempio delle patate, il contadino prende le patate e produce una merce. Le patate sono merce. Le patate per il contadino sono merce. Allora, questa merce il contadino la prende e la porta al mercato. Al mercato lui vende questa merce per un tot di denaro, no? Il denaro che prende gli serve per produrre altra merce. No, per soddisfare i suoi bisogni comprando altra merce. E poi, tra cui... Sì, in questo tipo di relazione, il valore di scambio è misurato sulla quantità di bisogni che il contadino deve soddisfare per se stesso. Nella società mercantile semplice. Quindi il valore di scambio è stabilito sul bisogno del soggetto, che non solo produce la merce di per sé e quindi detiene sia i mezzi di produzione, sia il prodotto, il lavoro. E quindi produce questa patata. La patata la vendo e mi serve il venderla, il valore di questa patata mi serve per comprare delle cose che bisognano a me. E quindi il valore di scambio è stabilito sulla base dei bisogni del produttore, nella società mercantile semplice. Diverso invece è nella società capitalistica, completamente diverso. Prima di tutto perché chi inizia il processo sono quelli che detengono gli strumenti di produzione. Quelli che detengono gli strumenti di produzione hanno, che cosa hanno? Non hanno la merce, hanno il denaro. Con il denaro comprano che cosa? Comprano una merce particolare, che non è la merce oggetto, ma comprano il lavoro. Attraverso il lavoro, quindi loro, cioè denaro, allora, nella prima della società mercantile c'è merce, denaro M, merce. MDM. Prendi la merce, la scambi col denaro e ti procuri altre merci che ti servono per soddisfare i tuoi bisogni opera da quanto trovo. Comunque il ciclo è M, merce, D, denaro, M, M, D. Nella società capitalistica invece cioè, com'è? Denaro, D, merce, M, denaro. Quella che Galimberti paragona al cambio dei mezzi in fila. Sì, grosso modo. Cioè, il denaro che in tutte le società pre-capitaliste, che è semplicemente un mezzo che aiuta, diventa la merce più importante e quindi diventa l'inizio e la fine, cioè i punti di snodo più importanti del processo produttivo. La merce materiale serve solo come, virgolette, pretesto per far circolare sempre maggiori allora, quantità di denaro. Allora, che cosa succede nel sistema capitalistico? Il modo produttivo è concentrato sulla produzione. Ma l'obiettivo del modo produttivo è la riproduzione di se stesso, cioè la produzione di ricchezza, cioè nel senso che si poi concretizza nella produzione di merci, nell'abbondanza di produzione di merci, quindi questa poi crea crisi di sovrapproduzione, quella che comunque stiamo vedendo anche adesso. Però diciamo l'obiettivo del sistema capitalistico è quello di produrre ricchezza, cioè di riprodurre se stesso praticamente. E in questo sistema la merce non è che viene scambiata, cioè il valore di scambio della merce nel sistema capitalistico, non è che questa merce vale denaro, un tot di denaro e c'è una corrispondenza denaro-merce così, cioè che ha un valore in sé la merce, per cui se no cioè, la merce diventa puro feticcio. Cioè, il valore della merce non è più come, non è come nella società determinato mercantile. Ma da che cosa? Dai bisogni di chi l'ha prodotta. Da che cosa invece è determinato? Dal lavoro. Da cosa? Ma non dal lavoro. dal plusvalore, no, dal tempo di lavoro. Allora, praticamente, l'operaio che cosa vende al produttore? Vende del tempo. Del tempo. Dice, io ti vendo 8 ore. Per un salario, no? E il salario è stabilito sulla base dei miei bisogni, così come era all'inizio della società mercantile. Ci sono sempre i bisogni dell'individuo che vende una merce, no? L'operaio vende il proprio tempo, cioè calcolando i suoi bisogni per sopravvivere nella sua vita. Cioè non per sopravvivere in quelle... Per sopravvivere in genere, no? Allora, non c'è più corrispondenza, quindi, tra... il valore di scambio e il valore d'uso, ma nel tempo che io vendo produco una quantità di cose di valore o comunque di prodotti che è maggiore rispetto a quelli che sono i miei bisogni, no? E quindi quello che Marx definisce il plus valore, no? E questo plus valore è dovuto alla quantità di lavoro in più che io utilizzo nella produzione degli oggetti, e che è quello che è il plus lavoro, no? Proprio sono questi due elementi che garantiscono la ricchezza, che garantiscono al sistema di produrre ricchezza. Per cioè cui, il lavoro che io produco e faccio supera quello che poi dopo mi viene retribuito, cioè, e quello che poi il valore delle merci per vivere, che sono prodotte da me con il mio lavoro, supera il salario, il valore. E la differenza tra valore e lavoro è tutto è chiaro. Però sì. la cosa fondamentale di questa roba qual è? È che abbiamo, come dire, spiegato bene che è soltanto nel capitalismo che occorre una unità di misura del valore così generale, perché fino a che la merce, fino a che le singole merci concrete sono al centro della produzione, ci può essere questa corrispondenza relativa tra valore di scambio e valore d'uso che c'è nello stato precedente, anche di tipo mercantile. Quando arriva il capitalismo, e quindi è la merce in astratto, e quindi il denaro principalmente che prende il primo piano, c'è bisogno di una sorta di modo generale per definire il valore della merce più importante della fase capitalista, che è la forza lavoro. E qual è allora l'unità di tempo. Sì. Leggiamo una frasina che spiega bene questa cosa. Lui dice sempre, allora siamo all'inizio del capitolo terzo, il denaro, ossia la circolazione delle merci. 1. Misura dei valori. In questo scritto presuppongo sempre, per semplicità, che l'oro sia la merce denaro. La prima funzione dell'oro consiste nel fornire al mondo delle merci il materiale della sua espressione di valore, ossia nel rappresentare i valori delle merci come grandezze omonime, qualitativamente identiche e quantitativamente comparabili. Così esso funziona come misura generale dei valori, l'oro. E solo in virtù di questa funzione l'oro, che è la merce equivalente specifica, diventa in primo luogo denaro. Le merci non diventano commensurabili per mezzo del denaro, però. Viceversa, poiché tutte le merci come valori sono lavoro umano oggettivato, cioè trasferito in un prodotto. Questa è un'altra che dice. Sì, però qui siamo sempre... Che è uguale a Hegel, Marx l'essenza dell'uomo è il lavoro, certo. Come per Hegel, anche per Hegel il lavoro era l'oggettivazione dell'uomo. E vedremo che non supera neanche però Ricardo, quindi da un lato Hegel, dall'altro è Ricardo, tutta la sua critica di Ricardo, però non lo fa, perché adesso lo dite. Viceversa, perché tutte le merci sono valori, sono lavoro umano oggettivato, quindi sono commensurabili in sé e per sé, possono misurare i loro valori comuni in una stessa merce specifica e in tal modo trasformare questa nella loro comune misura di valore, ossia il denaro. Il denaro come misura di valore è la forma fenomenica necessaria della misura immanente di valore delle merci, del tempo di lavoro. Il denaro come misura di valore è la forma fenomenica, cioè è il fenomeno, è come appare, sì. Però dice necessaria, cioè che non ci sarebbe altro modo. C'è uno strumento in realtà, è un segnaposto. Sì, occhio, però quando lui dice forma fenomenica necessaria, vuol dire che per lui è un processo oggettivo, non potrebbe essere altro che così, è una forma fenomenica necessaria. della misura immanente, vuol dire della misura che già sta dentro di per sé al di valore del merci, e che è il tempo di lavoro, 50. Il 50 è una nota di qualcuno. Ora, si dà il caso che questa definizione del valore del lavoro come tempo di ritardo, allora la critica che Marx fa ad Adam Smith e ad Ricardo è quella di non essere stati in grado, sufficientemente secondo lui, di concepire il lavoro come lavoro astratto. E il passo avanti che fa Marx rispetto ai fondatori dell'economia borghese, cioè Ricardo e Smith, è quella di concepire il lavoro generale, il lavoro come una attività astratta, cioè come se ci sia nel lavoro delle persone una qualità comune che va oltre le differenze specifiche, cioè il lavoro del contadino, il lavoro dell'artigiano, il lavoro dell'operaio, sì, eccetera. Però l'idea che il tempo di lavoro sia la radice del valore delle merci rimane ed è presa da Ricardo. Vedremo che questa, secondo alcuni, è la parte più caduta e più sbagliata delle teorie marxiane. Perché oggi, con l'epoca post-fordista, si vede chiaramente che una teoria del valore del lavoro come tempo non regge per nulla. Beh, quando l'immaginario, quando l'immaginario diventa una merce, si basa esattamente sull'uso del tuo tempo. Sì, questo è ovvio, ma che il valore delle merci sia identificabile con il tempo di lavoro. Anche perché lui diceva che, per esempio, tutti gli altri costi, il trasporto, la cosa, non erano influenti sullo stabilire. Cioè, quando te uscivi dalla fabbrica non producevi. No, cioè era soltanto ristretto al tempo di lavoro della produzione. Della produzione materiale. Materiale. Certo. In realtà poi anche questa cosa del lavoro astratto, cioè il fatto che lui dice che il lavoro astratto così concepito era un lavoro stabilito per unità di tempo, e questo tipo di lavoro non permette più quel processo di oggettivazione nella produzione che in Hegel forniva la consapevolezza dell'uomo, la coscienza dell'uomo. E quindi Marx dice, siccome non permette più questo processo di divento di oggettivazione, il soggetto si aliena. Si aliena nel senso che non riesce a trovare più se stesso nella produzione. Cioè questa è proprio, secondo me, anche quella la parte più sbagliata. Cioè il fatto che il soggetto sia, l'essenza dell'uomo sia nel lavoro, nella produzione materiale. E questo tipo di lavoro, cioè questo procedimento di alienazione, il lavoro astratto, viene anche definito lavoro morto, perché non è più un lavoro legato direttamente ai bisogni, cioè la produzione dell'oggetto non è legata ai bisogni dell'individuo, ma ti astrae all'interno di un modo produttivo, e quindi è definito anche lavoro morto. Ed è il modo in cui il capitale può costruire se stesso. Secondo Marx, questo è, però, diciamo, l'essenza è stata colta bene, perché poi puoi fare una serie di analisi precise, vedremo con nel senso che la connessione con l'oggetto, ecco, prodotto, no, cioè nel senso che sia lavoro, il processo generale attraverso il quale tu lavori, il tuo lavoro ha una serie di qualità di risonanze, come tutte le altre nostre attività umane, che, come dire, lo rendono vivo. È l'insieme delle cose che tu fai. Oh, mi piace. L'artigianato, per esempio. Esatto, ma anche la precisione con cui tu filetti una vite. Ciascun operaio specializzato. Nessuno è contento di filettare una vite. No, che sia contento, ma che ha una soddisfazione. No, ma ha una caratteristica diversa. Cioè tu filetti le viti, tu operai, filetti le viti in un modo diverso dal mio. Anche questo fa parte della mia e della tua attività. Ma no, aspetta, allora, tutto questo, tutta questa ricchezza del lavoro, tutto questo carattere vivo del lavoro, quando tu passi alla valorizzazione, nel senso del... si perde. Il capitale non è altro che la parte morta del lavoro, cioè l'insieme delle qualità comuni, il fatto che comunque tu fai sempre una vite filettata con quel certo passo. Allora, il lavoro morto, messo tutto quanto insieme, si oggettiva e diventa capitale. capito? E questo è più evidente nella catena di montaggio. Il montaggio è chiarissimo. È evidentissimo, certo. In cui la specializzazione del soggetto è assolutamente irrilevante, e quello che conta è l'essere parte di un processo produttivo che è lo scopo e la produzione della merce. Perché tu fai gesti semplici, ripetibili, che può fare come te qualunque altra persona. Il lavoro tradizionale, che per una parte, anche nella prima parte, gli operai specializzati, che erano, diciamo, nell'epoca pre-fordista, che è già capitalista, diciamo, il lavoro operaio è ancora in parte simile a quello artigianale precedente, cioè richiede competenza per saper far funzionare un tornio, una macchina pesatrice. Devi avere competenze, devi sapere come ruota. Beh, però in parte cosa ancora esiste. Certo, non sarà mai morto. Il post-fordismo è in gran parte un ritorno di diciamo, caratteristiche del lavoro pre-fordista nel nuovo ciclo post-fordista. Però diciamo, il fordismo non è passato in vano, cioè la segmentazione dei processi produttivi è comunque rimasta in qualche modo. Certamente gran parte dei lavori produttivi che si fanno oggi, pensate al lavoro, pensate a un web designer, c'è una gran parte che è ripetitiva nel suo lavoro, Loretta lo sa bene, che è addirittura blocchi di codice, eccetera. Da scimmia. Un'altra parte però invece è progettuale, quindi diciamo richiede oggi come oggi, vabbè, nel caso tuo perché. No, ma anche il pezzo di codice vengono presi. Comunque, diciamo, il post-fordismo riequilibra in parte diciamo, il rapporto tra creatività e ripetitività nel lavoro. Ma il fordismo, che ai tempi di Marx non c'era naturalmente, ma che Marx in qualche maniera aveva previsto, perché tutta la logica dell'economia capitalista, come la scrive lui, va verso quella roba che poi il fordismo realizzerà. Cioè per certi versi, è un terribile manuale di io le cose da chiedere, però io, per quello che mi ricordo io, rispetto all'alienazione, al lavoro del il lavoro aliena il lavoratore, però il lavoro capitalista aliena il lavoratore, no? Sì. Però per quello che mi ricordo io, cioè Marx individua questo come problema principale, e però dà una soluzione, non so come dirla, dicendo il lavoro aliena perché non è creativo. Allora, no. ti leggo la frase in cui lo dice. L'espropriazione dell'operaio del suo prodotto non ha solo il significato che il suo lavoro diventa un oggetto, un'esterna esistenza, bensì che esso esiste fuori di lui, indipendente, estraneo a lui, con una potenza indipendente di fronte a lui, che è la vita da lui data all'oggetto. È la vita da lui data all'oggetto. Lo confronta, estranea e nemica. Cioè nel senso che lui non si riconosce in quello che fa. No. Non solo... Mentre l'artigiano si sbatte, fa una roba, costruisce la sua scarpa, poi dice... Cioè, c'è un'espressione di lui. Che bella scarpa che ho fatto. È mia, l'ho fatta io, te la vendo per tot. L'operaio, essendo già ai tempi di Marx e più ancora nell'epoca fordista successiva, non controllando più globalmente il processo produttivo, ma un singolo pezzettino del processo produttivo. Quando uno sta a una catena di montaggio, ripeto che non c'era ai tempi di Marx, ma già ai tempi di Marx era, diciamo, l'operaio tessile, quando l'operaio stava 8 ore davanti al, come dire, telaio e produceva dei pezzi di tessuto uguali, eccetera, che cosa c'era di suo? Nulla, soltanto il tempo. Quindi i metri e metri e metri di, diciamo, tessuto prodotti giornalmente da questo operaio era una cosa di totalmente estraneo a lui, e quindi gli si ergevano di fronte, perché lui sapeva di aver fatto come se fossero una potenza ostile. Era lui che aveva dato vita a questa cosa, ma la vita di questo oggetto non riguardava più lui, gli era totalmente estraneo. Io secondo me questo pezzo lo leggerei. Ma questo pezzo, scusa, della carità, no. Cioè, il prodotto finale è il lavoro di un processo di cui lui fa parte, ma di cui completamente estraneo. Espropriato, estraneo ed espropriato. Sì, questa è la novità. Se lo espropria di cosa? Di se stesso. Allora, perché per Hegel la produzione di un oggetto, la produzione, il lavoro è produzione. Sì. è questo, il lavoro è oggettivazione del soggetto attraverso la quale il soggetto si forma. Sì, okay, un'espressione, cioè, è un'espressione di sé. Sì, praticamente per lui è una cosa. Invece per Marx è un'espropriazione di sé. Pensa in termini del lavoro capitalistico. Perché Hegel non pensa al lavoro capitalistico, Hegel pensa ancora al lavoro in generale, al lavoro creativo, al lavoro. Allora, sì, ci sono. Dunque, quando si parla di Marx, non si deve mai pensare che tutto quello che pensava Marx sta dentro quest'opera. Il Capitale è stato scritto per una serie di ragioni, era destinato a un pubblico di economisti, di analisti, cioè di, in realtà ci sono due altre opere di Marx che sono molto importanti, una giovanile, aveva 45, aveva 26-27 anni, sono i manoscritti economici che lui scrive a Parigi in quegli anni lì, prima della rivoluzione del 48, e in cui entra in contatto e vede per la prima volta le prime associazioni operaie. C'è una pagina bellissima di manoscritti in cui lui racconta dei sentimenti, cioè di come questi parlavano tra loro, cioè di come delle ignoranti, senza istruzione, eccetera, però organizzandosi, auto-organizzandosi, diciamo noi, parlando tra sé, eccetera, riuscivano a ricavare dalla loro esperienza viva una cosa. È in quest'opera, nei manoscritti economici che sono stati inediti a lungo e quindi non vennero conosciuti quando Marx e lì c'è per la prima volta una analisi originale di Marx del concetto hegeliano, perché è di Hegel, di alienazione. Per la prima volta Marx ha detto. L'altra grande opera che non sappiamo, già che ci siamo, diciamola, sono i Grundrisse. Grundrisse è una parola tedesca che significa lineamenti fondamentali. Grundrisse der politischer Ökonomie, che sono praticamente gli appunti di lavoro per il Capitale, in cui ci sono alcune parti simili al Capitale. Molte altre lui le ha poi tolte perché per togliere la parte. E invece i Grundrisse, che non la caso l'operaismo italiano negli anni 60 e 70 riscoprì, anche questi postumi evidentemente che non erano stati, e come dire, interessavano poco ai marxismi classici, sia alla tradizione comunista che a quella sociale democratica, e sono quelli in cui è più ricca l'analisi, anche l'analisi del capitalismo, insomma. Quindi Marx non è solo il Capitale, che è un'opera che per certi versi possiamo anche considerare un po', diciamo, riduttiva da un certo punto di vista. No, nel senso che diciamo, Marx era Marx il continente, diciamo. Marx è più ricco di Pedrao. Quindi adesso Loretta vi legge un pezzo dei manoscritti del 44 che sono che per certi Arianna, sono interessanti. Aspettiamo Arianna o vado? Vado. E poi glielo diamo. C'è scritto. Consideriamo più da vicino l'oggettivazione, la produzione dell'operaio e in essa l'alienazione, la perdita dell'oggetto del suo prodotto. L'operaio non può produrre nulla senza la natura, senza il mondo esterno sensibile. La natura è il materiale su cui il lavoro si realizza, in cui esso è attivo, da cui è mediante cui esso produce. Ma come la natura fornisce l'alimento del lavoro? Nel senso che il lavoro non può sussistere senza oggetti, sui quali esercitarsi. Così essa fornisce, dall'altra parte, anche gli alimenti, in senso stretto, cioè i mezzi per la sussistenza fisica dell'operaio stesso. Dunque, quanto più l'operaio si appropria col suo lavoro del mondo esterno, della natura sensibile, tanto più si priva di alimento. Nel duplice senso, dunque, quanto più l'operaio si appropria col suo lavoro, lavoro il mondo esterno, non c'è una virgola. No, vuol dire che forse non c'è una virgola con il senso. Dunque, quanto più l'operaio si appropria. Dunque, quanto più l'operaio si appropria col suo lavoro il mondo esterno. Allora, in realtà è sbagliato perché si appropria del mondo esterno. Bisogna dire. Allora, leggiamo giusto. Dunque, quanto più l'operaio si appropria col suo lavoro del mondo esterno, che è la natura sensibile, tanto più si priva di alimento, nel duplice senso che in primo luogo il sensibile mondo esteriore cessa sempre più di essere un oggetto appartenente al suo lavoro, un alimento del suo lavoro, e che in secondo luogo esso, mondo sensibile, cessa sempre più di essere alimento nel senso immediato di mezzo per la sussistenza fisica dell'operaio. Sotto questo duplice aspetto, dunque, l'operaio diventa uno schiavo del suo lavoro, primieramente, in primo luogo, in quanto egli riceve un oggetto di lavoro, cioè lavoro, secondariamente in quanto riceve mezzi di sussistenza. In primo luogo, dunque, in quanto può esistere come lavoratore, secondariamente in quanto può esistere come soggetto fisico. L'apice di questa schiavitù è che egli, ormai, solo in quanto operaio può conservarsi come oggetto fisico, e solo in quanto oggetto fisico egli è operaio. Ma perché non dire, c'è la parte bella. L'alienazione dell'operaio nel suo oggetto si esprime, secondo le leggi dell'economia politica, in modo che quanto più l'operaio produce, tanto meno ha da consumare, e quanto più crea dei valori, tanto più egli è senza valore e senza dignità, e quanto più il suo prodotto ha forma, tanto più l'operaio è deforme, e quanto più è raffinato il suo oggetto, tanto più è imbarbarito l'operaio, e quanto più è potente il suo lavoro, tanto più impotente diventa l'operaio, e quanto più è spiritualmente ricco il lavoro, tanto più l'operaio è divenuto senza spirito e schiavo della natura. Perché è un potenziamento del capitale, cioè il suo. Perché lavoro. Lui l'ha spiegato molto bene, perché io devo trarre dal mondo esterno sempre più cose, perché il capitalismo perché ci dice, perché giustifica se stesso? Perché tutti questi stronzi ci dicono che il capitalismo è buono? Perché? Perché ci dà tanti oggetti, tante cose, perché i contadini non avevano più, nelle società precedenti non c'è tutta questa ricchezza di oggetti. Ora, Marx ha tolto il velo, dice non è vero, non è per questo, la pluralità degli oggetti belli è solo un prodotto collaterale, lo scopo fondamentale del capitalismo è quello di far circolare denaro, denaro, lavoro a strada, riprodurre se stesso, e deve farlo tanto più rapidamente, eccetera. Certo, come sottoprodotto abbiamo, ma tutte queste cose quanto contano, cioè chi deve farle, che cosa deve fare? Primo, deve prendere sempre più cose dal mondo esterno. Il mondo esterno, la virgolette natura, si impoverisce sempre di più, si impoverisce, quindi mi dà sempre meno oggetti, e io devo fare un lavoro sempre peggiore, sempre più duro, sempre più, devo passare più ore, devo, per avere tutta questa pluralità di oggetti, il processo produttivo deve essere frammentato, io devo farne pezzettini, non posso fare sempre più e sempre la stessa cosa, sempre, quindi c'è questa pluralità bellissima, tanto più è ricco, tanto più sono povero io, ma non tanto perché sono sfruttato economicamente, perché sono costretto a produrre sempre una cosa, fare solo quella, non produco più, produco un pezzettino. La cooperazione sociale che viene molto potenziata dal capitalismo, certo, e c'è molta più cooperazione in questa società che in quelle precedenti, però in che forma viene fatto questo? Viene fatto nella forma a prezzo del mio isolamento, del mio costringermi a fare sempre la stessa cosa, fare un pezzetto di allora il precariato cose. È la soluzione. No. Sì, il precariato l'abbiamo rivendicato noi, cazzo, negli anni 60 cazzo e 70, non vogliamo più stare cose. E loro ce l'hanno dato in questa forma di merda, diciamo, distorta, ma come dire, è vero che l'idea di poter decidere di fare tante cose nella vita era giusta, era uno dei modi per superare. Adesso, chiaro, che ci voteranno ce l'ha andata in questa forma del cazzo, però, scusate, però è vero che era una nostra rivendicazione, flessibilità, non precarietà, flessibilità, autonomia, capacità di cambiare. I miei genitori, e c'era questa. Perché sono idioti i partiti politici che dicono no alla flessibilità, no al precariato. Non è vero, perché troviamo il modo, fateci essere flessibili senza essere miserabili, senza morire di fame, cazzo. Potendo, diciamo, sopravvivendo, però dateci la possibilità di fare tutto quello che possiamo fare in vita. Ognuno di noi ha dentro di sé 10.000, tantissime possibilità che. Il mondo fordista aveva, con il precluso, uno nasceva e moriva sempre nella stessa fabbrica, e le generazioni precedenti alla mia, e in parte anche alla mia, hanno conservato questa idea. Fedeltà al lavoro, questa ideologia lavorista del cazzo, insomma. Noi non siamo il nostro lavoro, noi siamo ben più ricchi del del nostro lavoro. Voglio anche lavorare con lentezza, e Marx l'ha scritta, è molto bella questa cosa, perché spiega bene, no, come questa progressione che ci ha prima indicato Loretta, no, è uno dei pezzi più belli. Anche la mia continua è pure bello, comunque dice, lo so, dice. L'economia politica occulta la relazione che nell'essenza del lavoro, che è per questo, che essa non considera l'immediato rapporto tra l'operaio e la produzione. Certamente il lavoro produce meraviglie per i ricchi, ma produce lo spogliamento dell'operaio, produce palazzi ma caverne per l'operaio, produce bellezza ma deformità per l'operaio. Questo è un proto-volantino del cantiere, eh? Esso sospinge il lavoro con le macchine, ma respinge una parte del lavoro a un lavoro, vabbè, basta. Sì, no, ma comunque insomma è un piccolo libretto, si legge abbastanza in fretta. Quale? E i manoscritti economico filosofici. E sono tutte cose che poi dentro Capitale non trovate più in pratica. Il Capitale è molto più astratto, molto più informale. Ma io direi che le cose fondamentali di Marx valore d'uso, i bisogni che soddisfano la merce, il tipo di lavoro fatto per produrre. Valore di scambio dipende dal sistema, dal modo di produzione. Nell'attività capitalista il valore di scambio è determinato dal tempo di lavoro. Teoria di Riccardo, ripresa a fare dal tempo di lavoro. Dal tempo di lavoro. Cioè, quindi non ha niente... però spiega meglio, perché tu l'hai detto bene prima. Non dal tempo di lavoro concreto, ma dal tempo di lavoro medio. Cioè, non è se io ci metto più tempo della media per fare questo coso. Non è un tempo soggettivo. Non mi viene pagato, chiaro. Mi pagano il lavoro medio che ci mette, ok, è ovvio, appunto, perché il lavoro è astratto. Però dipende anche lì. Della capacità produttiva del sistema, anche dell'operaio. Sì, dell'operaio, esatto. Certo. Quindi si calcola la media. Nell'epoca fordista tutto questo è stato esaltato, sì, e nelle fabbriche, cioè, faceva parte integrante del sistema fordista, per esempio l'analisi dei tempi e dei metodi, cioè c'era il cronometrista, quando c'era la post-fordismo, nel senso che se pensavano, sì, al just in time e compagnia bella, sì, però adesso non gliene frega più, ti pagano a cottimo, ti danno, cioè ti danno da fare un sito, non le porta il cazzo, quanto tempo ci metti. Ma infatti sta parlando della fabbrica post-fordista, la quale è just in time, cioè il fatto che il pezzo si trova in quel momento, è il vettore attraverso il quale si riesce a... Però la scadenza è un determina il tempo. Sì, chiaro. Beh, la scadenza, perché se tu... è ovvio che tu devi farlo. La fabbrica che loro dicevano nel 77 pure Pico, comunque la cosa del lavorare con lentezza, no? Cioè... c'è un film che lavorare con me, ma è quello che dicevano, che ti fanno vedere alle superiori dei dici che così, sai che io non l'ho mai visto, c'è quella canzoncina là, me l'ha fatto vedere in prima superiore, io sì, come in prima superiore, ma non uscire, perché è un film seconda superiore, quindi 10 anni fa l'ho visto in seconda superiore, l'ho visto quasi come dicono in Piemonte, no, è un cinno. Sei un anno più grande, ma un anno, guarda. Cosa non succede? Vuol dire tanto, vuol dire anche meno. Questa storia della teoria del valore di Marx è la più critica oggi, come oggi, cioè veramente la critica, ed è quella sulla quale si svolsero tutta una serie di polemiche già quando uscì di Capitale, perché molti teorici, diciamo, dell'economia, e non è così rivoluzionaria come hanno sempre pensato i marxisti, perché era già contenuta nelle prime analisi del capitalistica, infatti le critiche di Marx anche al Capitale sono quasi sempre più verso Adam Smith, che era molto più astratto, era un po' di colore, che non verso l'Italia. Riccardo viene un po' criticato per questa cosa, ma non poi tanto, perché in realtà lui prende da lui tutta la... prende da lui pari. La teoria del valore di Marx non è di Marx, è di Riccardo Marx. Sì, no, ma è giusto dire sembrano sposati. Poi dopo Marx lo declina. Marx, ripeto, l'innovazione di Marx sta nel sottolineare il fatto che il tempo di lavoro di cui si parla è il tempo di lavoro astratto e non il tempo di lavoro concreto, cioè, mentre Riccardo non aveva fatto questa distinzione. approfitto della presenza di Loretta per mettere, no, per mettere in luce un'altra contraddizione. Molto spesso nel pensiero di Marx c'è una bella contraddizione, ma è una contraddizione comunque, si tratta di elementi disparati, diciamo, tra la sua sottolineatura, per esempio nell'analisi dell'alienazione, sulla concretezza dell'esperienza, sulla relazionalità del lavoro come anche come molla, anche come cosa, virgolette, da rivendicare in qualche modo, senza tornare indietro, eccetera, e viceversa il livello alto, astratto, generale dell'analisi di cui è un esempio migliore il Capitale. I marxismi, a partire purtroppo dal principale collaboratore di Marx, che era Engels, e che gli sopravvisse per 10 anni, che curò l'edizione del terzo e del quarto libro del Capitale, uscito quando Marx era già morto, quindi Engels in primo luogo e tutta la tradizione marxista successiva non ha mai valorizzato questa parte, come dire, soggettivista di Marx, cioè questa insistenza di Marx sul carattere concreto relazionale, che invece l'operaismo tirerà fuori negli anni 60, ma in esplicita polemica contro sia la tradizione socialdemocratica che quella comunista, che si divergevano per un sacco di cose che vi dirò le prossime volte, ma concordavano su questa visione di Marx come grande teorico e quindi anche antagonista del sistema. Ora, molte delle cose interessanti di Marx non stanno tanto nella analisi generale, ripeto, uno dei cardini della sua teoria economica, la teoria del valore, è invece molto debole, quanto tanto nelle indicazioni di metodo che lui ha dato e che lo contraddistinguono e lo oppongono a tutti gli altri socialismi dell'epoca, Proudhon, Saint-Simon, Fourier, tutti i socialisti cosiddetti utopisti dell'Ottocento. Tanto era tutta gente che non aveva analizzato davvero, e questo è un grande merito di Marx, la complessità e la concretezza dei nuovi processi lavorativi. Proudhon, in pratica, quando parla di lavoro, pensa sempre all'artigiano. È chiaro che nella Parigi dell'epoca, nella Francia dell'Ottocento, che era molto meno avanzata, sviluppata industrialmente, per esempio, dell'Inghilterra, il lavoro artigiano aveva una grande forza e una grande presenza. La rivoluzione francese è stata fatta da artigiani, operai, ma quei pochi che c'erano, cioè garzoni di bottega, gente del genere, in termini marxiani classici era piccola borghesia e sottoproletariato. I mercanti. Sì, ma i mercanti non è che scendevano in piazza con le picche, si incazzavano, quelli che scendevano in piazza però sono quelli che parlavano. Quelli che parlavano, le classi di gente sono, avvocati, gente così, cioè Robespierre era un avvocato, c'è giusto, era figlio di nobili, quindi non è che sia... Mi stavo raccontando della innovazione di Marx, del fatto che in Marx ci sono diverse dimensioni che vanno... E comunque la dimensione di Marx importante era, l'insegnamento di metodo di Marx è che non bisogna sperare che la storia torni indietro, come facevano in gran parte, ripeto, gli altri tipi di socialismo, Proudhon, Fourier, eccetera. È impossibile che la storia torni indietro. Una volta che il sistema capitalistico si è affermato, Proudhon voleva un'eguaglianza economica. Proudhon voleva una società di piccoli produttori e artigiani. Di tipo artigiano nella sua sì, infatti, perché poi lui faceva artigianato, Bakunin per esempio c'era la cosa del local, Bakunin poi ce ne ha il metodo di Marx era stare dentro i processi, è dai conflitti interni al capitalismo che maturerà la nuova società, non da ritorni all'indietro, questa è la dico, forse l'avete affrettato mentre io ero al bagno, però... L'alienazione l'alienazione, però, cioè, con classe Marx identifica una delle entità che regolano la storia, no? Sì, la dialettica, le due parti della dialettica. La lotta di classe è la lotta fra queste due entità. Tra le classi. Come si riattualizza questo? Si sono trasformati in modo tale, ma anche Marx spiega bene. Marx dice le classi ci sono sempre state, però nelle società precedenti a quella capitalista erano molto, come dire, mascherate anche dal punto di vista della, diciamo, i modi di produzione precedenti al capitalismo, sì. Mascheravano le classi, cioè facevano sì, non solo che anche il capitalismo questo fatto, ma era più difficile, per esempio le rivolte, insomma, gli schiavi non sono mai stati una classe in senso classico. Ma di per sé stesso, però perdendo il punto della situazione, la lotta di classe marxista è una cosa che non è, diciamo, marxiana, che non è, diciamo, il fondamentale della teoria marxiana che dovremmo prendere in considerazione. No, ma la classe. No, per quanto riguarda, no. No, perché comunque questa cosa della lotta di classe per Marx serviva come espediente per arrivare a un punto della storia in cui il soggetto sarebbe stato liberato. No, dai sistemi, però si può dire una cosa, cioè, secondo me noi dovremmo parlare invece di questa lotta di classe, perché poi ce lo ritroviamo anche nei volantini. Aspetta, okay? Ti spiego perché, cioè, volantini dei marxisti leninisti italiani, cioè, no, però allora lotta di classe, ok, ho capito, però allora dobbiamo dire, cioè, titolo di classe, perché a noi non va bene, cioè dobbiamo capire, certo. No, ma infatti allora, che ho fatto la domanda secondo il mio punto di vista, secondo il mio punto di vista la questione della lotta di classe nel pensiero marziano era all'interno di un, sempre, di un rinnovamento del pensiero hegeliano e dell'idea di una storia che va verso un punto alto, verso una direzione, in cui in quel punto troverà il suo svolgimento ultimo. Okay? Allora, siccome, a parte che questa idea della storia che arriva a un suo svolgimento ultimo mi sembra che sia assolutamente inutile, anche perché è troppo deterministica, cioè è troppo che, certo, già tutto succede alla fine. Rende anche immobilizza, perché se poi comunque questa dialettica avviene, tu ti senti soltanto parte di un processo di dialettica in cui comunque c'è un progetto prestabilito, il progetto prestabilito non c'è. La teoria marxiana è importante, l'idea che l'introduzione del fatto che la società non è neutra e che la società è fatta sulla base di rapporti che sono regolati, relazioni che sono regolati dai processi produttivi. Questo è importante. E questi rapporti, queste relazioni, sono caratterizzate, hanno delle caratteristiche, no? Che in Marx vengono spiegate come classi, ma che in diversi, nell'evoluzione del sistema produttivo, poi possono evolversi ed essere analizzate in maniera diversa. Però qual è il punto fondamentale? Che qual è il comunismo che la Muraro non vuole abbandonare? È il concetto di liberazione. Cioè l'idea che ci possa essere una liberazione di un individuo attraverso una consapevolezza, perché comunque Marx parla di coscienza di classe, cioè l'operaio comunque deve prendere coscienza della propria condizione, capito? Ed è una parte anche dell'operaismo. L'operaismo non parte dall'autocoscienza, però non è iscritto in un processo lineare, no, cioè nel senso che poi l'evoluzione del femminismo, il femminismo come declina questa cosa della liberazione è un'altra cosa, però per esempio, tipo, la Lonzi rifiuta questa idea lineare dicendo: chi se ne frega il cazzo del futuro, io voglio essere libera adesso. Capito? Cioè, adesso basta con questa storia che io devo lavorare nell'idea di un processo storico di bene per la classe, per le lotte di classe, di un futuro, di una storia che va avanti, che arriva a un elemento positivo. Sì, ma questa è stata la prima, è stata la Lonzi. Nel 77 scrive il manifesto di rivolta femminista, col quale esce da potere operaio. E poi scrive: sputiamo su Hegel. Cioè, perché individua in Hegel l'idea del processo storico. Oltretutto, in Hegel c'era anche un'idea della donna come bisogno dell'uomo e come elemento all'interno del processo dialettico della storia, come soggetto con il quale si costruisce una famiglia, e che è sempre un altro bisogno dell'uomo che va verso una sempre una figura, cioè una cosa in cui la donna all'interno di questo processo dialettico è la cosa, è soltanto una figura di bisogni dell'uomo, cioè i bisogni dell'uomo. Però poi in realtà posso dire la mia sulle classi? Sì. dico due robe di semplice buonsenso. Allora, anche perché la incontreremo da tante storicamente, che storicamente le società siano segmentate e siano divise in gruppi sociali con interessi diversi è una banalità, certo. Quindi se intendiamo col termine classe un gruppo, una compartimentazione, una sezione, una frazione della società caratterizzata da una relativa omogeneità di condizioni di vita e da una relativa omogeneità, cioè da una relativa uguale posizione del processo produttivo, le classi ci sono sempre state. I contadini proprietari sono una classe, i contadini braccianti sono un'altra, gli artigiani sono un'altra, i mercanti però sono come, un'altra, no? Come sentire, come soggettività, all'interno di queste classi non c'è una che siano soggettive o meno, però se uno va a fare un'analisi sociale di qualunque società nel mondo, standard di vita, le classi di vita, cioè non è la percezione di standard di vita, però parla sempre nel senso marziano, all'interno di un modo di produzione, non di vita, è un modo di produzione. Ovvio che i modi cioè, sono cosa modi fai quando lavori, sostanzialmente. No, senso che non cosa che fai quando lavori, come funziona il sistema della produzione, la distinzione tra, cioè nel senso che tipo di produzione è. Allora, che ruolo il sistema che ruolo hai ha un ruolo fondamentale all'interno delle relazioni, però effettivamente anche questo c'è, nel senso che comunque le relazioni, cioè non è che il sistema produttivo stabilisce le relazioni, comunque le relazioni no, sono certo, anche al di là del sistema produttivo, però effettivamente è difficile distinguere. Mi fate finire il però ragionamento, perché sennò non arrivo a dire quello che volevo dire. Quello che era, le classi sociali intese semplicemente come gruppi di persone che hanno modi di vita, redditi e interessi, quindi diversi, ci sono sempre stati. Qual è la, cioè perché il termine classe viene introdotto a un certo punto e perché il termine classe compare quando compare il capitalismo? Che cosa hanno i gruppi sociali del capitalismo di particolare da poter essere chiamati classi? Perché spesso nella analisi sociale il termine classi viene riservato di fatto alle due grandi classi che Marx individuò, che borghesia e proletariato. È che il modo di produzione capitalistico, proprio perché mette in primo piano le attività più astratte, l'attività più astratta di aumento continuo della ricchezza e quindi di rivoluzionamento continuo del processo produttivo, cosa che non era tipico delle epoche precedenti, da un certo punto di vista introduce dentro a questi gruppi sociali le condizioni preliminari per una presa di coscienza maggiori che nelle società precedenti. Perché è un malessere, perché comunque questa la teoria marxiana si introduce anche all'interno di un malessere di certo. Della classe. Allora, in altri termini, se il contadino medievale non percepiva di essere una classe sociale e pensava piuttosto di essere una condizione storica eterna, perché non poteva concepire altro, mio padre è contadino, mio nonno anche, cazzo, io sono quello, sono un contadino. Quando non c'è mobilità sociale, quando non c'è la possibilità per qualcuno c'è un altro anche, un altro in cui riconosce. Quando non c'è mobilità sociale, quando tu sai che sarai nella stessa posizione sociale di tuo nonno, tuo padre, cioè, non c'è neanche possibilità di percepirsi come classe, non sei una classe sociale. Come soggetto politico. Oh, e quindi cos'è il politico? Cosa fa il capitalismo? Introducendo questa, e quindi introducendo la mobilità sociale, perché sarà per pochi, ma il fatto che in linea di principio il figlio di un operaio possa fare un lavoro diverso da quello che ha fatto suo padre, è la prima volta nella storia che capita, quasi mai succedeva. I figli dei ricchi erano ricchi, i figli dei nobili erano nobili, ed era una, no? Mentre per la prima volta nel capitalismo c'è questa cosa. Allora, a quel punto sì che dici, beh, se mio figlio può fare una cosa diversa, cosa sono io? Un contadino, un bracciante, un operaio di fabbrica, mi sento parte di una classe. Allora, nel concetto di classe c'è, cioè, sia pure embrionalmente, viene considerata la coscienza di classe. Non c'è classe senza coscienza di classe, sia pure in modo embrionale. Ora, in realtà il meccanismo che stanno avviando i Chenworth sui precari è quello allora, dell'istituzione di una coscienza di classe precaria. La domanda fondamentale a cui sarà difficile che rispondiamo adesso, ma mi sembra che dietro tutta la domanda ci fosse questa. Nel post-fordismo che fine hanno fatto le classi? Non ci sono più, ci sono sì, ancora? C'è una parola che non abbiamo detto, è il post-fordismo. Sì, va bene. Quando poi spiegheremo meglio, però insomma sappiamo tutti che siamo in una fase del capitalismo diversa da quella che aveva. Però ci siamo sottolineati Marx. Più volte di non dare per scontato questa parola. Va bene, ma ne parleremo e cercheremo di capire meglio cos'è. Però diciamo, nel capitalismo di oggi, che è così diverso da quello di ieri, ci sono ancora le classi, non ci sono più. Allora, ci sono ancora nel senso che ci sono ancora dei gruppi sociali, questo è scontato. Ci sono ancora nel senso che la divisione tra detentori dei mezzi di produzione e non detentori dei mezzi di produzione è più sfumata di prima, certo, è più sfumata di prima, però non è scomparsa del tutto. No, cioè. Non è scomparsa del tutto, perché tutta questa pletora di cosiddetti autoimprenditori, cioè di persone che astrattamente dovrebbero avere dovrebbero sfruttare dei mezzi di produzione, in realtà non è realmente sfruttare i propri mezzi di produzione. Ecco. Allora, le classi sociali, secondo me, esistono ancora, però siamo in una fase di così rapida trasformazione che chiaramente non le classi sociali di cui parlava Marx sono morte. Il proletariato in senso marxiano, come basato sul proletariato industriale, numericamente, ma non c'è più. Non c'è più né come forza politica e neanche come nerbo di un però aspetta, la critica che viene fatta la critica che viene fatta è che però è comunque si tratta di una situazione economica e di un modo di produzione che è quello occidentale, che probabilmente nell'America del sicuramente Sud, certo. I sistemi di produzione sono quelli industriali, però ma la globalizzazione influisce anche su di loro. Sì. Sì, quindi che è impossibile separarli, però c'è una quantità di produzione materiale. Comunque, la mia idea è che anche se parliamo soltanto dell'Occidente, le classi sociali esistono ancora, ma sono in rapida trasformazione. Perché ci stiamo sforzando? Perché Bifo e altri sono inventati il termine cognitariato, cioè qualcosa che ricorda il proletariato ma mette l'accento sui nuovi corpi. Perché, vuol dire, non perché Bifo è mezzo matto, perché sono realmente, siamo tutti in rapida trasformazione. La necessità di creare una coscienza nell'individuazione di un gruppo di persone, esatto. Non è funzionale alla questione della dialettica storica, battaglia contro il capitalismo, tu sei il proletario e fai la battaglia contro il capitalista e che quindi questo porterà alla risoluzione della... Il processo per in cui questo non ci crediamo. La individuazione di un'identità di classe serve come processo per la liberazione dell'individuo, capito? Che comunque non è dovuta, poi ci sono diverse teorie, diverse cose che è dovuta prevalentemente da un'autocoscienza, cioè la cosa dell'autocoscienza, della determinazione della classe è diciamo il punto centrale. Passiamo a Freud. Va bene, cosa ti posso sì. Prima linguistica e poi psicologia, dai. No, perché poi forse ci metti meno, quindi... Perché vuoi fare poi direttamente burgia? No, tu vuoi fare tutto tu. Scegliti tu. No, perché poi passiamo direttamente burgia. No, perché lui fa il fattore di avvianza, no? Cioè, vuole che poi... No, poi hai detto tu, poi hai detto tu. Un po' più sicura. Come lei che tiene la... La conferenza. Sì, sono un po' più ansiosa. Almeno ho letto il corso di musica generale. Quando parla di geologia. Dei situazionisti poi non parleremo mai. Della geologia. No, io voglio parlare della concetto di geologia. Per me dà gusto. Allora, per Aspetta. Teoricamente no, però ti ritrovi in un sacco di... Alessandro vuole sapere l'idea del concetto di geologia. Allora, ideologia. Nel periodo storico in cui vive Marx, il sistema filosofico dominante è quello idealista, è quello di Hegel. E per Hegel ideologia ha un'accezione positiva, cioè è comunque... l'idea che sta dietro. Sì, no, sono espressioni dello spirito. Okay. Cioè la filosofia, le arti, la storia è espressione dello spirito. Sì, è tutta espressione dello spirito. No. Cioè lo spirito è il tema centrale, no? E quindi c'è l'idealismo e si basa su questa idea, sull'accezione positiva del termine ideologia. Marx invece dice non c'è lo spirito e non c'è nessuna manifestazione dello spirito. L'unica cosa che conta nella realtà delle cose è le relazioni di classe che sono regolate da un sistema produttivo. E quindi, diciamo, tutta la storia si basa su questo rapporto, di questo insieme di relazioni, che poi portano appunto, cioè, più alto. Il resto non conta niente. Non conta assolutamente niente. Il resto non è che non conta niente, c'è la struttura portante, che è quella della relazione economica, della relazione tra classi, della dialettica in realtà, cioè dello scambio tra due classi definite. E il resto è definita sovrastruttura, cioè le relazioni sono la struttura, le relazioni tra classi sono la struttura. Il resto, la cultura, la filosofia, è tutta sovrastruttura, no? E quella sovrastruttura, anche il diritto, è sovrastruttura, serve per garantire alla struttura il suo funzionamento ed è un tipo di pensiero dominante. E lui introduce l'accezione negativa del termine ideologia, la riprende da Napoleone. Ho letto, ah sì? Curiosità, la riprende da Napoleone. Sì, e da dice Napoleone, l'accezione negativa. Dice sì. Cioè, ideologico. Ma perché? È ideologico nel senso. La riprende da Napoleone. Sì. Sì. Napoleone fa delle polemiche, però. È ideologico, per dire che è un costrutto concettuale che viene utilizzato per garantire o per giustificare nascondere un funzionamento di un sistema. Però lo nasconde, cioè nel senso che non è... L'opera principale di Marx di critica del legalismo, anche questa pubblicata postuma, quindi non l'ha mai pubblicata in vita, si chiamava Die Deutsche Ideologie, ideologia tedesca, ed era la critica a Hegel e all'hegelismo ortodosso. La prima opera di Marx si chiama Critica della filosofia hegeliana del diritto, che è uno degli aspetti della filosofia. Eh sì, dove critica la questione di Stato. Per riassumere in una formula quello che diceva prima Loretta, si potrebbe dire che l'ideologia è il pensiero, il discorso sovrastrutturale che si presenta come fondamentale e che quindi nasconde dietro di sé, cioè dietro la sua facciata di relazioni tra le idee, relazioni tra le persone e diciamo processi produttivi. E la formula con la quale Marx si identificò e criticò l'ideologia è una falsa coscienza, cioè è una coscienza falsa di se stesso, è quando tu scambi la tua rappresentazione per la tua essenza. Se posso fare una maggiore critica a Marx, dico che proprio in questa cosa di Marx in realtà si nasconde anche il limite marxiano, cioè che Marx era di fatto un essenzialista, cioè continuava a essere hegeliano perché credeva nella essenza delle cose. E anche tutta la sua concretissima e bellissima e giustissima analisi del sistema capitalistico, quando viene ipostatizzata, sclerotizzata, come hanno fatto i marxisti, genera ideologie e genera perché? Perché non si mette in luce l'equivoco fondamentale, cioè che esista una qualche essenza dei fenomeni e dei problemi produttivi. La critica più fondamentale della ideologia quindi deve andare ben al di là di come Marx l'aveva vista. Cioè il marxismo, contro il discorso del marxismo. Però bisogna dire che il marxismo, bisogna dire, davvero, ha una, diciamo, radice in alcuni aspetti del pensiero di Marx. Cioè, però è una deviazione. Marx è molto più ricco, eccetera, eccetera, però non è che sono inventati tutto, qualcosa da Marx l'hanno preso. Beh, certo, che cosa. Vabbè, è ovvio, l'idea del comune. Vabbè, ma che comunque il passaggio dallo Stato, che lo Stato prima deve rendere consapevole. Sono tutte robe che poi un pochino in breve vi dirò quando farò la mia, quando vi racconterò le cose. Dai, vai da là. No, il sociale. Se vuoi fare se vuoi fare sociale, fai sociale. Pausa? Pausa? No. Madonna, ti piace overdose oggi. E allora, questa pausa. Non è... tutte le case. Sì. Fernandez. Allora. Di dov'è? Chi è? Dove sta? Cosa ha fatto? È francese. Che no. Ah no, di dov'è? Ginevrino. Oh signore, uno svizzero. Mi si uno dei pochi svizzeri italiani. Saussure. Ho detto il corso, ma non ho detto. Vabbè, era un ginevrino. Allora, è un professore di linguistica. Sì. In realtà è un mezzo pazzo. No. Che la vita non ha mai scritto niente. Ha scritto poco, ha scritto alcuni articoli su si dedicava per la maggior parte alle lingue indiane europee, perché era quella, era la linguistica dell'Ottocento. Spiegagli un attimo in breve cos'era la linguistica dell'Ottocento. Era come la filologia di adesso, no? Sì, più o meno era filologia, la filologia era filologia, cioè nell'Ottocento c'era filologia, nasce dall'Ottocento. Nasce con praticamente e lo studio delle lingue, dell'origine delle lingue. E si basava su di una ipotesi rivelatasi poi assolutamente fantasiosa, che ci fossero dei ceppi, che esistesse una lingua mitica chiamata indo, di alcune famiglie, non di tutte, che accomunava le lingue parlate in Europa e in una parte dell'Asia meridionale, appunto l'indiano, indo, da cui sì, anche Nietzsche Bohr insegna filologia. Nietzsche nasce come filologo, certo. Poi però fa un'opera quando... Ma ancora te la insegna la sua storia all'elementare? No, adesso è chiarissimo che è una palla. Però all'elementare me l'hanno insegnato così. Però è una bella palla. Non lo so, forse è toscano. Era un filologo, era un linguista di questo tipo, che studiava in europeo, dal quale si diramano... Però le cose che pubblicò in vita, tranne il basso, non esiste. Scusami, io ho sentito Buttafuoco in televisione, a parte che... Buttafuoco, che dicevano che parlavano... che parlavano di questo fatto, esiste o non esiste, diceva sì, esiste. Ma dove mai? Ma lei... I linguisti non hanno più dubbi ormai da un secolo, è una cosa fantasiosa l'indo-europeo. Ci sono ovviamente parentele. Non ci distendiamo sull'indo-europeo. No, era per spiegare a loro che cosa ha scritto in vita lui. Ha scritto diversi articoli sul sanscrito. Ha lavorato per la maggior parte sugli anagrammi. E gran parte del suo lavoro consisteva in un lavoro assolutamente folle e pazzo sugli anagrammi di poesie di alcune lingue minori del Caucaso, dell'Ossetia, indoeuropei, eccetera, roba assolutamente assurda. Allora, però due suoi allievi, dopo la sua morte, pubblicano questo libro, si chiama La Linguistique Culturelle, de Linguistique Générale, che sono gli appunti di due o tre anni di corsi messi insieme tra loro, e che sono totalmente rivoluzionari, cioè in cui si dimostra che nelle sue lezioni Saussure parlava di cose totalmente diverse, e da quest'opera di Saussure nasce tutta la linguistica del Novecento. Sì, la linguistica del Novecento sì, però lo strutturalismo è posteriore. Il corso viene pubblicato nel 1922, però comunque costituisce la base fondamentale. E di base bisogna pensare che comunque loro avevano un approccio molto scientifico, per cui comunque per loro erano delle cose che dovevano essere dimostrate e che comunque avevano tutto un procedimento, cioè anche nel dettaglio, se vedete il corso di linguistica generale è anche molto semplice da leggere, però c'è un'ossessione nello spiegare come vengono tutti quanti i passaggi per poi arrivare alla spiegazione di che cos'è la struttura, di che cos'è tutto una lingua e tutto quanto. Cioè, quindi ha visti russi, c'è quello di Praga, compagnia bella. No, dei posti, sono i primi che concretizzano queste idee. Bisogna analizzare che cosa significa struttura, bene, perché non è, cioè non ha una concezione di causa-effetto, non è in quel senso. Allora, praticamente la linguistica studia prevalentemente il linguaggio. Secondo sostegno. Parto dalla da che cosa è per Saussure il pensiero umano, no? Secondo Saussure il cervello umano, o il pensiero umano, non il cervello, non parlo solo, il pensiero umano è una massa informe, cioè è una cosa che non ha una, non è definita, non ha caratteristiche ben... E il linguaggio serve come procedimento attraverso il quale questa, questa forma, questa materia... C'è mega Kant? In che senso? No, non mega Kant, va, va oltre Kant. Nel senso che attraverso il linguaggio prende forma... Sì. Si ordina. Si ordina, non, non prende forma perché... Cioè il pensiero, secondo lui, non c'è, cioè nel senso che la capacità di pensiero, secondo me, è più una potenzialità, cioè, deve essere più concepita come una potenzialità, questa massa di pensiero. E il linguaggio, attraverso il linguaggio, è possibile ordinare questo pensiero, dare un ordine. Allora, secondo la, la concezione generalizzata, si pensa che le parole, cioè le, che la lingua sia un insieme di parole, che hanno un significato, oppure che corrispondono a un oggetto. Semplicemente, si pensa così, no? Dici, bicchiere significa questo, cucchiaio significa questo. In realtà, Saussure dice, non è vero, cioè niente di più sbagliato rispetto a questa cosa. Lui dice, le parole, in realtà, sono l'incontro di due componenti fondamentali. La prima è l'immagine sonora. Per immagine sonora, lui intende quella insieme di suoni, non di fonemi, ma di suoni, che l'uomo utilizza per indicare un qualche cosa, per indicare un concetto, che lui dice un concetto, non un oggetto materiale, ma un concetto, no? Un'idea, l'idea di albero, l'idea di armadio, cioè è una... Ah sì, aspetta, allora, praticamente lui dice che l'immagine sonora, cioè l'insieme delle sensazioni sensibili, cioè che sensazione io quando, quando dico la parola libro, no? Cioè è tutto un insieme di cose di fisiche, cioè della, della, dei sensi, della, della, della parola libro. E poi c'è il concetto di libro, no? E per lui una parola è questo. Questi due aspetti però non sono, non è possibile dividerli. Lui li definisce come le parti di un foglio, le due parti, le due facce di uno stesso foglio. Cioè nel senso che quando tu tagli il foglio non è possibile tagliare le due parti da una dall'altra, ma le tagli insieme. Cioè, fai... E quindi non, non è possibile fare una distinzione tra questi due aspetti. Siccome questi due aspetti, cioè questi due termini, cioè immagine sonora, più il concetto, l'idea. Cioè l'immagine sonora è l'idea, però bisogna fare attenzione perché molto spesso si confonde con il significante. L'immagine sonora è idea. Poi dice, però, per semplificare, per indicare questo fatto che queste due cose sono talmente unite tra di loro, lui utilizza queste due parole che sono molto simili, che sono significante, che è l'immagine sonora, cioè l'aspetto materiale della parola. Per materiale, il fraintendimento maggiore, quando si usa il concetto di materiale per la parola, non intendo l'oggetto, no? Ma è la sensazione sensibile, è corporea, la materialità del suono. Non intendo l'oggetto in particolare, il significato invece è l'idea, il concetto. Quindi questo sono le teorie che si assumono quando devi andare a spiegare il teatro in relazione alle altre forme di arte. Per Saussure questo è il superamento di quello che viene definito un empirismo ingenuo, cioè l'idea che la realtà è che il nome delle cose, cioè quando tu nomini un oggetto, l'oggetto esiste di per sé. Ma sta bisogno per un nome? No, nel senso che... Ah. Che la corrispondenza è scontata, cioè nel senso che preesiste una è vero questa cosa, perché poi spiegheremo una questione un'altra interessante, cioè però, esiste all'attuazione, sì, aspetta, cosa non so come spiegarlo, è perché lui dice in realtà che c'è una sorta di virtualità nel reale che si deve scoprire attraverso l'analisi della lingua, capito? Cioè nel senso che l'oggetto non esiste se non dopo il punto di vista, capito? Che lo definisce. Cioè io parlo di la mia sensazione, cioè quando io dico bicchiere non è una cosa universale, la mia sensazione sensibile di bicchiere è sicuramente diversa dalla tua. Cioè, la materialità della parola bicchiere è nel suono bicchiere, capito? È diverso da come lo dici tu. Sì. E questa in realtà io è il mio punto di vista, capito? Cioè, c'è una corrispondenza, c'è una virtualità del reale. Cioè, lui a me il reale c'è, non si sta parlando di Matrix. Quindi è cambiato. Cioè, c'è una realtà. Capito? C'è una realtà. Però lui dice: non è una realtà, è una realtà che si costruisce attraverso il punto di vista, attraverso la soggettività. Sì. Lui chiama punto di vista, in realtà. Quindi immagino se non è significante, attraverso il significante, il concetto poi dopo. Il concetto è il significato. È l'idea, una piccola porzione di attività che tu associ a questo. Il concetto di bicchiere, cioè, scusa, il concetto di albero, no, il concetto non di bontà. Non toccare l'oggetto, perché il concetto non c'entra con l'oggetto. Il concetto è una idea. Cioè, sì, posso un tenuto mentale. Sì, posso vedere. No, quando te mi dici albero, io penso a un albero in astratto. Sì, proprio albero, però lui come esempio. Ah, ok, perfetto. Però penso anche a un albero che è il mio albero, che è l'albero che fa parte della mia memoria, del mio vissuto. Infatti non è un albero concreto, è un concetto. No, ci sono due parti, cioè l'albero concreto che si rimanda al mio vissuto e no, l'albero idea. L'albero concreto non c'è mai. Una se non nella tipo. Cioè, tipo, quando tu tocchi la bottiglia, dici bottiglia, e c'è nella... No, c'è nella tua attività mentale, esatto, che sta dietro, ma non c'è nella tua, cioè, attività io linguistica. Io quando dico albero, non è che... però tu non è parli che... di albero con lei. Lei, non il tuo albero, non lo sa, vedrà mai, non certo. Vede. Però aspetta, e allora, i testimoni di Geova ci dicono, ad esempio... No, aspetta, dicono ad esempio... Ma i testimoni di Geova dicono una c'è il semaforo verde... Il daltonico lo vede rosso, te lo vedi verde in un determinato modo, però quello è comunque sia verde. No. Anche il daltonico dice verde. È la sensazione visiva del verde per lui è verde. Cioè, che per lui è blu, però è ovvio che è ovvio che il daltonico ha un sistema sensoriale diverso dal tuo, e quindi la tua esperienza è diversa dalla tua, e quindi lui ti dà la combinazione. Prendeva come esempio l'albero, perché proprio sia l'albero ti rimanda il concetto dell'albero e basta, non ad un albero specifico, non sai, con pioggia. Allora, ma soprattutto quando tu parli, questo serve, soprattutto quando allora bisogna pensare alla lingua come concettuale di quello che dovrebbe essere l'oggetto a cui ti riferisci. Allora, alla lingua come un sistema che permette un processo comunicativo, ok? Cioè, allora, per questo vi ho detto all'inizio, non bisogna vedere la lingua come un insieme di parole che significa una cosa. Aspetta, no, devo spiegare che cos'è una parola, però. Se no, una parola non è l'immagine sonora più il concetto. No, perché se io cerco di spiegarti, ti sto dicendo bicchiere, bottiglia, le cose, però quando io e te parliamo, non è che sono il bicchiere, la bottiglia, cioè, sì, io adesso sto dicendo, che ne so, quando mi comprerò una bicicletta, andrò e mi suiciderò per Milano, capito? Quando io ti parlo di bicicletta, no? Non c'è la bicicletta presente. No, ce n'è anche. No, nella tua, io ho nominato bicicletta. Ok, per lei è verde, per te è rossa. La bicicletta è una parola. Sì. Tu hai cioè un'idea. Però un'immagine di che ti suicidi in bicicletta. Sì, no, va bene, bicicletta. Lascia perdere bicicletta. Vabbè, poi tutto il resto lì è proprio una costruzione. Esatto. Però, vabbè. Il valore della parola. Sì. Quando io dico bicicletta, ho la parte della materiale è il suono. La mia emissione vocale. Bicicletta. E quella è significante. Capito? Okay. L'idea che tu hai di bicicletta è che io ho di bicicletta è il significato. Ok, allora, questo aspetto è la parola, capito? È quello che Saussure definisce, cioè quando io dico la parola, compio un atto di parola, capito? Perché per quello è comunque un'azione comunicativa all'interno di un sistema di un'espressione comunicativa, cioè non è un semplice elenco di oggetti, capito? È un'azione che io faccio per comunicare con te, è chiaro? E quindi quando penso alla parola, non devo pensare alla corrispondenza con l'oggetto, ma devo capire bene che cos'è la parola. La parola è un atto comunicativo, cioè l'atto di parola, la chiamo Saussure. Questo atto di parola ha dei componenti che sono significante, significato, comprendi che non sono divisibili, cioè che non riesci a, a distinguere in maniera così netta. Ma il concetto è dato dal significante, è dato dal contesto strutturale nel quale inserisco la parola. No. Sì. Io spiego sempre questa cosa. Io faccio domande. Ok, ricominciamo da capo. Che nessuno intervenga, siamo di sincero. Fai bene la spiegazione e poi. Allora, l'idea di immagine sonora l'avete capito? Sì. Cioè, il fatto che l'immagine sonora è la parte materiale della parola, okay. Mentre il significato è l'idea. Ok. Esatto. Allora, quando io dico una parola, è un'azione. Cioè, la parola va concepita come un atto di parola, non come una corrispondenza con un oggetto. Cioè, un atto all'interno di un sistema comunicativo. Anche Austin lo dice. Sì, anche Austin. Ha detto niente interventi. No, perché l'ho letto, allora... Beh, dopo, poi parliamo delle tue esperienze. Perché adesso c'è un'immagine, c'è un concetto di parola. Cazzo se ne fosse! Cioè, abbiamo tutto. Dai, scherzo, devo. Stavo dicendo, l'atto di parola. Questa cosa, vabbè, però permette questa cosa comunicativa. Però, in realtà, la parola di per sé... non è legata dal contesto in cui io ti dico la parola, perché se io dico non è una parola, non è una parola. Cioè nel senso che una parola è giustificata all'interno di un contesto, è chiamata lingua, ok? Quindi è che permette, capito, che stabilisce delle regole per cui io e te capiamo che cosa significa, che so, albero, ok? Quindi so, c'è una parola che è costituita da significante e significato, e questa parola ha un valore all'interno di una lingua, ok? Per Saussure, le diverse parole, cioè, aspetta, questa parola l'ho detta, aspetta, facciamo questa parola. Le parole hanno valori diversi a seconda delle lingue, del contesto, delle culture. Sì, ok. E il valore, lui parla proprio di valore di una parola. E il valore di una parola è stabilito sulla base delle relazioni tra le diverse parole. Tra le diverse parole all'interno di una lingua, no? Una lingua è un insieme di parole. Voglio spiegare che cos'è lo strutturalismo. È complicatissimo. Io pensavo di fosse più semplice. Però a me è più chiaro Saussure, però rispetto a Max, figura. Dai, gioca, passa la parola. No. Una lingua è un insieme di parole. Però tu non lo devi considerare come un insieme casuale, no? Le diverse parole occupano uno spazio. Cioè, considera proprio come una griglia. Una griglia in cui la posizione della parola non è prestabilita, ma si stabilisce sulla base di una serie di regole di relazione tra le diverse parole. Okay? E questo è quello che loro definiscono struttura. Cioè, la struttura è molto rigida, forte, nel senso, però non è predeterminata. È topologica, cioè nel senso che dipende dalla posizione della parola, e questa posizione è stabilita sulle basi delle relazioni, e nel momento in cui queste relazioni stabiliscono un valore, la parola acquista la sua posizione. La sua struttura. La posizione della struttura. Che però non è predeterminata. Ha un valore mutabile. Sì. Quindi la struttura in sé si modifica? La struttura, sì. O a ogni... Non è così modificabile. Cioè, nel senso, poi si dimostrerà che... All'interno delle regole dell'alfa, della lingua. Sì. Ci sono relazioni, aspetta, e meta-relazioni. Aspetta, le relazioni, aspetta, linguistiche sono variabili. No, le meta-relazioni non sono variabili. Aspetta. È difficilissimo. Posso fare... Scusa. Allora, no, nel senso, posso... Io non ho capito molto bene. Cioè, okay. Scusa. Le meta-relazioni dove sono? No, aspetta, aspetta, c'è un casino, devo chiarirmi una. Allora, hai detto che la parola è atto di parola, cioè è atto comunicativo, ok? Quindi io uso la parola per dire a te, Loretta, una cosa che sta qua dentro e la voglio dire a te. Quindi ci vuole sostanzialmente un mittente, uno che vuole esprimere qualcosa, un destinatario, ma anche un... Jacobson, già sei lo strutturalismo okay, avanzato. Lui non è aspetta, dita, no, aspetta, va bene, però per chiedermi io un'idea. Però, oltretutto, cioè, oltre a queste due cose, c'è cioè, anche bisogno di un sistema di riferimento entro il quale dei articoli... Ok, la lingua, devi parlare esatto la lingua, se no... Cioè, sì, ma al di là di quello, anche a un sistema di senso concettuale, nel senso che se io faccio riferimento... tramite la parte se parli una lingua ce l'hai la lingua porta con sé automaticamente questo, quindi anche nella noi, parola noi tutti parliamo italiano parlare italiano di noi significa italiano avere sì cioè, però se io parlo con però io lo capisco il tuo lo capisco il tuo italiano capisco anche quello quindi c'è una base comune però, attraverso no, la quale bisogno, noi possiamo quello già è una cosa avanzata cioè quello che tu dici il codice quello già è Jacobson non è tanto difficile a me il concetto di messa la struttura Fabio, mi sembra molto più difficile sì, Madonna, oh ma se deve capire beh, bella, no, vabbè. Allora considera tipo una rete no non è una rete poi c'è la struttura determinata sono equidimensionale tridimensionale. No, ma, perché tu introduci la meta. Sì. Per favore, per favore. Non introdurre le meta relazioni. Io sto parlando delle relazioni associative e delle relazioni sintattiche. Grazie. Se tu già introduci le meta relazioni, già è diverso. Cioè, l'intonesia è metafora, tra parole, capito? Cioè, è complicato. Basta che ti spieghi cos'è una figura di. Cioè, la. Tu stai dicendo chi non parla della lingua, cioè che io sto parlando della lingua, capito? Però già è introducendo un elemento di complessità maggiore rispetto a questa cosa. Ti hanno chiesto cos'è la struttura, tu non mi sei cos'è la lang, e non ti dico che riprendere la lang e parole e lo ah, sì, dire okay, cos'è la, okay, la struttura. Scusa, qual è? Cioè, perché, che no, l'abbiamo spiegato a... Sì, è vero, serve. Io mi ricordo la lezione quando ci ha spiegato la lang e parole e si è riuscito a capire molto bene. Perché non ce l'hai mai fatta la lang e la parole? No, dillo! Adesso basta, dillo perché no, ormai ah, scusa. Si sta perdendo l'attenzione. No, la metastruttura era interessante. Pronto? Una lingua è una struttura perché è un insieme di relazione tra fenomeni sonori che sono associati tra loro in unità dette parole e frasi le quali poi hanno una relazione con certi stati di cose che avvengono fuori diciamo, la lingua, il mondo ma per il momento non ce ne occupiamo perché lo studio della lingua è lo studio scientifico secondo di quella che lui chiama la struttura della lingua. Che cos'è la struttura della lingua? È l'insieme di relazioni tra questi suoni organizzati in parole e in frasi che sono comuni a tutti i parlanti della lingua. Ogni parlante della lingua parla la lingua in un modo diverso, sia da un punto di vista fisico. Io ho un accento vagamente nord italico, Manuela ha un accento abbastanza spiccatamente napoletano o campano, tu hai un accento spiccatamente toscano, eppure tutto questo non ci impedisce di capirci, quindi noi siamo in grado di andare oltre l'accento di intonazione di Europa. Io ho un modo di usare la sintassi particolare, diverso da quello di Alessandro, diverso da quello di Loreda, però voi grosso modo capite quasi tutto quello che dico, tranne quando uso parole strane o quando faccio o quando faccio delle incassature di cinque subordinate l'uno dietro l'altra, ma quindi come adesso, ma in linea di massima siamo capaci di capirci. La struttura della lingua è quell'insieme di relazioni tra quei suoni che consentono ai parlanti di una lingua di capirsi. Allora, ogni volta che io faccio degli atti linguistici, non sono situato direttamente a livello della struttura linguistica, perché io faccio della parola, io sto parlando ora, e il mio atto linguistico sta al, diciamo, livello esecutivo, di esecuzione di un atto, che Saussure indica col termine parole. Gli atti linguistici sono tutti atti di parole. Io proferisco parole. che connette in un certo modo, eccetera, ma il modo di connetterle e la variazione dei materiali sonori sono idiosincratici, cioè sono caratteristici miei, e quindi fanno parte della mia parola. La parola è mia. La mia parola è diversa dalla parola di Loretta, è diversa, e la mia parola di oggi è diversa dalla mia parola di un minuto fa, è diversa. Quindi sono però noi comprendiamo, voi tutti state comprendendo la mia, come dire, parola, anche se non l'avete prodotta. Perché siete in grado di capire la mia parola? Perché la mia parola si basa su una struttura che è ad un altro livello rispetto alla parola, e fa uso di procedimenti e di livelli relazionali che sono conoscibili da voi. Non è l'analisi, ma è la conoscenza implicita che tu hai, anche se tu non sai anche se tu non sai nulla, non sai né la lingua gallese né quella logica. Certo, tu hai una conoscenza della lingua che prescinde dal fatto che tu la esatto, puoi anche non conoscerla. È quella, però, certo, è quella che corrisponde alla grammatica e alla sintassi, cioè alla relazione. Una spiegata molto diversa, io credo, sì. No, però evidentemente non l'avevo capito. Allora, questo livello strutturale, quindi ciò che consente a tutti noi di capirci, è la struttura della lingua. Che è la Lang. Saussure chiama Lang. Lang, sì. Quindi la Lang è la struttura che sottostà a ogni atto concreto di parole. E che usi ogni volta che usi una determinata lingua. Quindi se io parlo in tedesco... Sì, la Lang del tedesco è la Lang. No, utilizzi dei pezzi di volta in volta. Che però la struttura è creata dalle relazioni. Tu crei, okay. Tu utilizzi le relazioni. Aspetta, finiamo. Diciamo l'ultima cosa, perché sennò... Che cos'è che si può studiare di una lingua? Il livello di parole o quello di Lang? Non certamente di parole. Delle parole è indissociabile. Non si può... Perché io dovrei andare a descrivere una lingua, tra virgolette, diversa per ognuno dei parlanti di questa stanza. Mm-hmm. Perché l'insieme delle quindi delle all'interno dello stesso dialetto facciamo ogni persona parla una lingua, nel senso di parole, diversa, però le singole lingue individuali, i singoli idioletti, mm-hmm, cioè le singole i singoli modi di produzione, per usare un termine marziano, linguistici, sono diversi tra loro, però condividono tutti la stessa struttura, una comunità linguistica di persone si comprende l'una con l'altra perché parla la stessa, non la stessa parola, ma la stessa Lang. Ciò che si può studiare di una lingua non è la parola, ma è la Lang. E la Lang consiste in un insieme di relazioni interne di tipo fonico, fonetico, sonoro, tra i suoni diciamo diversi. No, non parlare di suoni diversi. E la cosa fondamentale di Saussure è che Saussure pretende e propone di studiare la lingua non come un insieme di categorie dell'analisi grammaticale o logica, nome, verbo, avverbio, aggettivo, oppure soggetto, predicato, eccetera. Perché per Saussure tutte queste sono proiezioni successive, elaborazioni successive di qualcosa di molto più fondamentale, strutturale. L'analisi strutturale di una Lang è l'analisi delle relazioni in reciproche tra gli elementi fonetici, tra gli elementi sonori, tra le parole. No, le parole, perché sono tutti quegli elementi, non è soltanto il suono, il significato, la parola. Okay. Cioè le relazioni tra le parole. E dentro a questa relazione presuppone quindi che la parola sia quello che lui chiama un segno, il segno nulla. Segno. Il segno che nella lingua è la parola, il segno base che nella lingua è la parola, è questo insieme di rapporti, questo insieme di relazioni che legano un significante, cioè una concreta produzione sonora, con un significante. No. No. Mi sembra Pure, scusate, no, sembro gliato. Non è vero. Io ancora sto metastruttura non ho capito. No, la struttura è una cosa. Però ci ha lanciato sta palla, scusa, della metastruttura. No, perché ti ho interrotto io? Perché hai detto che le relazioni quelle sono quelle tra significanti e significato, invece no. No, no, scusa, se ho detto questo mi sono. Mi sono espresso male. lo studio della struttura di una langue è lo studio delle relazioni tra le parole di una lingua, relazioni che poi adesso Loretta vi spiegherà di che tipo sono, di che tipo sono le due relazioni che abbiamo detto su, relazioni tra queste parole, ognuna delle quali è un segno, cioè una unione di significanti e significato come le due. Perché dice così? Ognuna delle quali parole, ognuna delle quali parole, non delle relazioni, cazzo. Ognuna delle quali parole è un segno, cioè unione tra le relazioni. Cioè la parola è il segno. La parola è il segno. La lingua è l'insieme delle relazioni tra i segni di una lingua. Relazioni che possono essere di varie. Schema veloce. Schema veloce. Cioè tipo parola uguale significante significato. Parola uguale segno, cioè parola uguale segno ed è significante significato. Ok? La parola è inserita all'interno della lingua. Della lingua, del senso, lingua. Lingua. Lingua. La parola inserita all'interno della lingua. Della lingua. Ok? Cioè all'interno della lingua ci sono tante parole, tanti segni. Ok? Tra queste parole ci sono delle relazioni. È semplicissimo. Le relazioni stabiliscono il valore delle parole. Okay. E le relazioni, per Saussure, sono di due tipi. Aspetta, tra le parole ci sono delle relazioni, le relazioni... Stabiliscono il valore della parola. Cioè, all'interno del processo comunicativo aspetta, il valore è complicata no, aspetta, c'ho bisogno di capire la questione del valore linguistico, perché spesso perché è stabilita dalle relazioni, perché spesso è ciò a cui noi nel linguaggio comune ci riferiamo con un termine sbagliato, dicendo significato. Noi spesso chiamiamo significato qualcosa che non è il significato peso nel senso forse, esatto. Nella teoria dell'informazione è il peso dell'informazione. Il peso dell'informazione. Cioè, il valore che una parola... Allora, cioè quanta per esempio, quando io dico io sto, la parola successiva è in relazione a quella che ho detto adesso, io sto. Ma digli del valore, spiega come una stessa parola può avere valore diverso. No, io dico diverso. Loretta, tu devi dire una cosa. Sì. Cioè, io sono una mente semplice. No. Però se ci fosse stata una lavagna. Hai una mente un po' schematica. No, però sì, per me è frustrante, perché per me è chiarissimo in mente. Per no, no, ma infatti è solo per capire, no, per vedere se ho capito. Ma no, per me è una cosa, cioè che io ormai. Fagli fare la tua benigna. Aspetta, io la vedo. Rispetto alla roba che dicevo prima, no? Cioè io voglio dire una cosa a te, quindi. Cioè, è come se la parola fosse il segno di quello che io ti voglio comunicare, cioè no, aspetta, fammi finire. Non utilizzare segno, no, parole e segno significa la stessa, sono uguali. La parola è segno, sono uguali, quello che io ti voglio comunicare. Il sistema di senso, aspetta un attimo, sistema di senso di riferimento comune che abbiamo io e te, entro il quale io inserisco il segno, quindi la parola, è la lang. Cioè, sì. La lang è il sistema di riferimento comune che usiamo per interfacciarci l'una all'altra. Sì. Ok? Ok. Ti posso suggerire una cosa? Che forse è meglio. Cerca di liberarti da ogni cosa che sai sulla teoria dell'informazione, che non serve a un cazzo in questo momento. Non c'entra nulla proprio. Comunque è un problema. Sì. No, perché è molto strano. Sì, ho spiegato perché io ho studiato prima Jacobson e se lo viene in testa. Vabbè, ognuno studia prima quello che vuole, però adesso lasciamo perdere il tuo studio fisicamente. Diciamo... No, è perché è frustrante, l'ho detto, cioè, riprendendo questa cosa, parola, segno sono identici. Quando io dico segno, dico parola, dico la stessa cosa. Ok? Però il segno o la parola, significante e significato. Sì. Cioè, sono così più significante, si ripetiamo, ok? Possiamo fare un piccolo passo avanti. Un segno è la relazione che c'è tra il significante e il significato, che non è la relazione tra con gli altri, è la relazione interna. È quella cosa del foglio. Esatto, il foglio. Il foglio è l'insieme di un retto e di un verso, sono indistinguibili, non puoi dire no, piglio solo il retto. È, lo puoi pensare nella tua testa di archetipo, ma non esiste foglio di carta che non abbia un verso insieme. Non esiste una parola che non ha, che non sia un che non sia l'insieme di certi suoni e di qualcosa che questa parola a virgolette vuol dire. È un concetto. Fammi dire questa cosa perché è importante. Spesso noi quando parliamo nel linguaggio comune usiamo il termine significato per alludere non al significato del segno, ma all'insieme, a quello che e i linguisti chiamano valore. Il valore di una parola dentro una certa frase, dentro un contesto, è quello a cui dovranno essere anche... Che cosa significa dire sedia? Allora, se io ti dico, per favore, prendimi quella sedia, la frase, per cortesia Fabio, prendi quella sedia. Oppure dico, la sedia costruita da Tonet nel 1932 aveva queste e queste altre caratteristiche. Il valore, sono la stessa parola, il valore della parola sedia nelle due frasi è molto diverso. La prima è una frase imperativa o in cui chiedo qualcosa a un'altra persona, indica un oggetto particolare e io propongo il presente e propongo a una persona di fare una certa azione su quella sedia. Quando dico la sedia costruita da Tonet, alludo a un'altra sedia, alludo a un altro contesto, posso anche non conoscerla realmente quella sedia, ma se vi dico abbastanza cose, allora il valore della parola sedia è variabile, capite? Se noi quasi perché sedia in quella frase significa non significa nel senso sussuriano. La sedia in quel contesto vale quella cosa, in un altro contesto vale, giusto? Abbiamo detto giusto, lo so perché no, Saussure lei lo ha letto meglio di me, quindi no, ma è perché per certi versi lo conosce meglio, è quasi più difficile insegnarlo per lei. No, perché è complicato, perché cioè ci sono delle cose che poi afferri, perché quando parli impari la lingua da altre persone e quindi queste cose non comunque fino adesso mi sembra che siamo arrivati abbastanza a chiarire cos'è la langue e cos'è la parola. Abbiamo cominciato a capire cos'è una struttura linguistica, abbiamo chiarito il concetto di parola come segno e come significato. Adesso se Loretta ci aiuta cominciamo a indagare le relazioni, che tipo di relazioni ci possono essere fra le parole, cioè io propongo anche che qualcuno ci leggiamo magari ti sei detto anche te, magari... ma io ho letto il corso di linguistica. Lei ha letto direttamente il corso di... Giusto, leggiamo. No, Loretta, però esistono... Sì, però ci sono due o tre capitoli che possono essere letti. Che sono più... Sforziamoci. No, è semplice, il corso di linguistica. Non è tanto difficile, solo che ha un problema. 500 pagine. No. 500 libri di linguistica. No, ma queste robe sono no, tutto no, perché poi c'è delle parti che sono pallosissime. No. Vabbè, comunque, allora il rapporto tra significante e significato bisogna concepirlo come, cioè Saussure lo dice, arbitrario. Oh, l'arbitrarietà. Cioè non c'è assolutamente nessuna regola che stabilisce questa relazione che lui dice tra significante e significato. Cioè se io dico albero, la parola, il suono albero, non c'è nessun motivo per cui questa parola, questo suono debba associarsi alla idea di albero, ok? Cioè non da nessun motivo, tu nasci all'interno di una lingua, te lo insegnano e il motivo lo hai perché lo assumi, però quella lingua quando si forma, quella parola quando si forma, e la corrispondenza tra significante e significato è arbitraria. Cioè non ci totalmente, sono totalmente. Non c'è onomatopei, no. A lui nel corso di linguistica dice che non perché sono diverse la lingua che sono diverse la lingua i cani abbaiano diversamente in italiano, in francese, in inglese, e per non parlare dice, in cinese e seppure hanno avuto un fondamento nell'onomatopea, cioè sì, certe parole col corso di linguistica. No, il concetto onomatopea è come lo pensiamo noi, è stupido. Cioè, nel senso che la corrispondenza della parola con l'oggetto, anche se questa parola, o col concetto, anche se questo suono richiama, che ne so, una funzione a una cosa di questo concetto, non è reale, cioè nel senso che non è, c'è un altro concetto, cioè non è questo il motivo della relazione, motivo. La lingua ha scelto chi, quando si è formata questa lingua, questa corrispondenza ed è tutto arbitraria, cioè non ci stanno delle regole prestabilite per la corrispondenza delle parole, dei suoni con i concetti. Questo assioma della teoria strutturale si chiama arbitrarietà del segno. Il segno è qualcosa che istituisce una relazione tra autoritante e utilitario, e questa relazione è totalmente, assolutamente, e se leggi il capitolo sull'arbitrarietà, eternamente arbitraria. Ti viene la depressione, perché dice che proprio perché è arbitraria, la lingua non è modificabile. Proprio perché è arbitraria. Cioè lui dice, proprio perché c'è questa cosa di arbitrarietà, che però comunque... all'interno di una lingua costituisce una componente molto forte di corrispondenza tra significante e significato, è difficilissimo scardinarla, cioè proprio è difficilissimo riuscire a staccare questo non vuol dire cioè, che cambiare le lingue significato non cambiano mai, cioè no. Cosa? Questo non vuol dire che non cambiano mai le lingue nel tempo, si dice soltanto l'eccezione può essere nel corso del tempo, ma è basato su una serie di relazioni di cose e questo non vuol complessissime, dire... non prevedibili, non così, per cui... e questo non vuol dire neanche che all'interno di una lingua non si possano introdurre nuove parole, neologismi. Ma in realtà quando tu introduci un neologismo, introduci un altro rapporto anch'esso arbitrario tra un significante e un significato. Quindi è impossibile, cioè questa cosa in cui sono sostituiti che è immodificabile, vuol dire realmente che non è possibile, che non c'è nessuna azione individuale possibile per modificare radicalmente e strutturalmente questo rapporto arbitrario tra significanti e significati, tra questa pluralità di significati che diciamo, la lingua instaura. Forse sarebbe bene introdurre però la differenza tra sintonia e diatonia. Sintonia paradigma, perché sono le relazioni, però siccome hai accennato adesso... Allora, no, perché un'altra delle innovazioni di Saussure rispetto alla linguistica del suo tempo è che la linguistica dell'Ottocento, insomma, la linguistica dell'indoeuropeo, tanto per capire, era prevalentemente una linguistica storica, cioè pensava di scoprire le parentele tra le varie lingue e l'evoluzione storica di queste lingue. Si dà per scontato che ci fosse grammatica, sintassi, eccetera, ma la cosa importante era, siccome diciamo l'Ottocento è il secolo della storia e dell'evoluzione, è un secolo naturalmente hegeliano, insomma, per quante critiche gli sono state fatte a Hegel, questa idea della storia dirava comunque, la cosa importante è capire la storia. Saussure dà un taglio, Saussure non nega che sia interessante, però dice, guardate che per studiare la lingua non bisogna, diciamo, studiarla nel senso dello sviluppo, ma andare a prendere, vedere come è fatta in un certo momento, e la struttura si analizza principalmente in quel dato momento. Per fare questo, Saussure dice, ci sono due modi diversi di studiare una lingua. Uno è quello della sincronia, lo stesso tempo, cioè si studia la lingua per quello che è in quel certo istante. Io ho una lingua, oggi l'italiano parlato ora, il giorno 21 settembre del 2009, o nel 2009, che sarà quasi tutto uguale, ma un po' di variazioni ci saranno anche tra un giorno e l'altro. Se no vado a fare una grammatica storica dell'italiano, vedo come lo parlavano ai tempi di Dante. Bene, lui dice, per capire la struttura della lingua, la cosa più importante è lo studio sincronico e non quello diacronico. L'immutabilità della lingua, per lo studio, significa prevalentemente una sua immutabilità di tipo sincronico. Cioè, all'interno di una sincronia, nessuno potrà mai cambiare quel rapporto, cioè potrà farlo, ma si inventerà una parola nuova, quindi aggiungerà un altro elemento, non cambierà, nessun neologismo cambia e manco tutte le altre parole, rimangono, ce ne sarà aggiungi una in più, ma non cambia, non è che di per sé, questo vuol dire. diacronicamente è chiaro che ci sono delle modificazioni, anche lo studio lo poteva negare perché aveva studiato anche lui, però lui nel suo core lui non nega la possibilità di uno strutturalismo, diciamo, diacronico, però di fatto costruisce uno strutturalismo sincronico, cioè lui guarda tutte le cose da un punto di vista sincronico, cioè in quella domanda. Cos'è questo sulle relazioni? No. Lingua in un certo momento o sviluppo storico della lingua. Beccati solo le sintagme, solo le relazioni. L'ultima cosa che è molto importante. Parola segno uguale, la stessa cosa, uguale significante, significato. Okay. All'interno di una lingua. E allora, le diverse parole hanno una relazione tra di loro che stabiliscono il valore, e le relazioni possono essere di due tipi. La relazione di tipo sintagmatico, che praticamente sono quel tipo di relazioni quando tu, un esempio è cammino, cammina, cammini, cammine, camminano, okay, disegno. Cammina, no. Sintagma è in presenza, il paradigma è in assenza. La relazione tra cammino, cammina, camminava, camminò è paradigmatica, non è sintagma. È sintagma. Sintagma è io cammino per la strada, questa è la sintagma. Guarda, sono sicurissima, lo guardate ieri, il paradigma, a parte che lui non parla mai di paradigma, sì, parla di relazione associativa, è in assenza, e dice quando tipo tu dici cane, pane, tutte le cose che non ci sono, è il paradigma. Cammino, cammina è il paradigma. No. Il cammino è sintagma. Ecco, c'è tutto, una roba. Scusami, cioè, anche qua. Vabbè, dai, allora basta, non facciamo le relazioni, cioè, vabbè, no, fidiamoci di quello che dice lui. Esatto, siamo qui apposta per metterci d'accordo sui termini, scusa. Lasciamo bene il sintagma e il paradigma. Le relazioni tra le parole sono le relazioni tra le parole in presenza, cioè quando io dico una frase, quando io faccio una frase, le relazioni, io cammino per io cammino in Piazza Duomo, io cammino, ci sono delle relazioni tra le parole io cammino in Piazza Duomo, perché queste parole fanno parte di una concatenazione verbale che descrive una certa azione che mi importa alla testa, una certa immagine mentale, io vi dico ieri camminavo in Piazza Duomo. Le relazioni tra le parole, tra le singole parole, io, ieri, camminavo, in Piazza Duomo, sono relazioni che avvengono in presenza. C'è una catena di parole. Questo io camminavo in Piazza Duomo è un sintagma, è un insieme di parole, una dietro l'altra, costituisce una frase. Le relazioni tra le concrete parole di una frase sono relazioni sintagmatiche, che sono in presenza. Per capire la frase io ieri camminavo in Piazza Duomo, però, ognuno di voi, mentre io dico ieri camminavo in Piazza Duomo, automaticamente... Ho sbagliato l'esempio, però diciamo, sì, per intendere la stessa cosa. Automaticamente, voi capite che se io dico io, non ho detto qualche altra parola che sta in una relazione con io, perché per esempio sono gli altri pronomi personali. Io... Caronia non ha detto tu, non ha detto lui, non ha detto lei, non ha detto noi, ha detto voi. Allora c'è una relazione tra io camminavo ieri in Piazza Duomo che è in presenza. C'è una relazione tra io, tu, lui, lei, noi, voi, loro, che è una relazione in assenza, perché io non ho detto io. Però voi sapete inconsciamente che c'è una lista di parole chiamate pronomi personali che possono essere soggetto di una frase, e notate che io ne ho scelta una. Per poter capire cosa vuol dire io, voi sapete l'opposizione che c'è tra io e tu, io e noi, io e voi. Quando dico ieri, voi dite ha detto ieri, non l'ha detto oggi e non l'ha detto domani, non l'ha detto la settimana quando scorsa. Quando dice cammino, non intendo... Ogni parola porta con sé a diversi livelli una lista di altre parole che non ci sono nella frase concreta, quindi, ma che rimandano. La comprensione della lingua presuppone che voi comprendiate, che io comprenda quando produce voi, cioè, che il parlante, come dire, padroneggi e che l'ascoltatore padroneggi due tipi diversi di relazioni. Le relazioni che ci sono tra le parole che concretamente costituiscono la frase, relazione in presenza, relazione detta da sintagmatica, e le relazioni di ogni singola parola con altre liste di parole che non sono presenti in quel momento, che fanno parte della categoria grammaticale o di significato a cui questa parola rimanda, e che io scelgo e dico, vi dico ieri e non oggi, vi dico camminavo e non stavo fermo, vi dico camminavo e non correvo, vi dico camminavo e non passeggiavo, faccio una scelta, vi dico mi piace l'uomo. Anche delle categorie di significato. E anche delle categorie di significato. Oh. Seconda relazione. Allora, si chiama in assenza. Associativa. Lui la chiama associativa. Sussur non usa mai il termine paradigma, la chiama relazione associativa in assenza. I linguisti posteriori, notando che una parte di queste relazioni si riferiscono ai paradigmi grammaticali, non tutte, l'hanno chiamata genericamente paradigma. Oggi si usa, quando io la racconto, dico direttamente sintagma e paradigma. Cioè, un aspetto sintagmatico, quindi, del linguaggio. Sintagma e paradigma sono due aspetti relazionali del linguaggio. Le relazioni possono essere o sintagmatiche, cioè quelle che ci sono tra in presenza, tra le singole componenti della catena verbale, o paradigmatica in assenza. Come notava giustamente adesso Loretta, la relazione paradigmatica fondamentale è di tipo sonoro-fonetico. Quando io vi dico pane, voi capite pane, che ho detto pane e non cane. Però risuona l'orecchio. Certo, nello sfondo ha detto cane e non ha detto pane. Le altre immagini sonore, e le altre ovviamente. Una volta che io vi dico una cosa, voi automaticamente, senza neanche accorgervene inconsciamente, escludete tutte le altre possibili parole che finiscono in ane e cominciano con una consonante diversa e dite a cane. Ma voi sapete cosa vuol dire cane? Esatto, perché sapete che cane non è pane, che pane non è dane, se mai ci fosse, che non è bane, che non è tutte le cose possibili. Vabbè, comunque tenete presente, teoria del valore di Marx e teoria del valore dei segni. Oh, brava. Questo. Cioè, in realtà Baudrillard li mette insieme. Ciao, per fine. E crea la teoria del valore, dello scambio simbolico. E della produzione materiale, della cosa della prossima volta che preparo, per il valore simbolico. Nel primo capitolo del scambio simbolico alla morte c'è questa cosa, non so se continuiamo, se... Io devo andare. Di domenica. Come riuscire a togliere la casa? Se vuoi entrare con la casa mia, non so se vado a casa mia, domani ho cercato di fare. No, io continuerei. Se io sta parte no, diretta a casa non ci vado. Che prevede che ci debba essere un fulcro centrale che costituisce l'elemento per arrivare alla risoluzione del conflitto. Ed è sempre, capito, un elemento intorno al quale si devono basare le relazioni, sul quale poi si devono analizzare tutte le relazioni. E invece si scopre che alla fine è sempre lo stesso errore che si fa, cioè si fa sempre l'errore di dare valore universale a una lotta singolare. E per noi, perché si ipotatizza, si chiede che ci siano dei contenuti più importanti di altri. La cosa mentale, non so così, sono le relazioni. Cioè, voglio dire, per assurdo potremmo fare una lotta su una. Moltissime delle lotte sono cagate. Ti leggo un'altra parte che a me piace tantissimo. Sono perché mettono insieme la gente, perché fanno le robe. Quindi la cosa importante è lo sciopero per lo sciopero. Lo sciopero per lo sciopero era la verità attuale della lotta, senza motivazione, senza obiettivo, né referenziale politico. Esso risponde opponendosi a una produzione a se stessa senza motivazione, senza referenziale, senza valore d'uso sociale. Io sono lo sciopero. Senza verità che io voto a favore. La lotta ambiente. Lo sciopero umano. Ecco, bravo, basta. Sei veramente un matto. Ma proprio infamato. Sta andando? Vabbè, poi ne parliamo la prossima volta. Se era anche una cosa di poco, vado via con lei, che non farmi la. Non lo so, volevamo fare. Comunque c'hai il 12 te qui che ti ricorda. Forse per la dai, ma già un sacco di roba. No, volevo iniziare così. Ah, di certo, subito. Ragazzi, al massimo un'altra Se continuate a fare sussurre così, vado. Se passate a Freud adesso, ditemelo. No, finite questo discorso della linguistica? No, penso che non... Voleva fare un'applicazione, voleva andare a vedere come si pronunciavano sussurre e Marx della linguistica per parlare. Come arriviamo almeno a un abbiamo fatto uno e l'altro, cioè bisognerebbe vedere come si uniscono nella produzione immateriale, cioè come diventano uno scambio simbolico. Però io sono stanca mentalmente, quindi questo mi aiuterà un sacco, perché se non sono riuscita a spiegare Saussure vuol dire che sono mentalmente stanca. Non è detto che dobbiamo comunque la corrispondenza. Cioè, ci vediamo settimana prossima. Facciamo lo schema, no? Di come gira la manovella. No, io comunque propongo che prima di ogni incontro vengano lanciati i temi, così qualcuno si c'è la possibilità di guardarmeli a casa, farmi l'idea. Allora, decidiamo. Vediamo che cosa fai la prossima volta, dai, cominciamo il discorso. Freud, Lacan e Freud la differenza. No, e Baudrillard non li fai? Non iniziamo adesso, oppure finiamo... Io... non so. Ma solo accennare la corrispondenza tra significante significato e valore di giovalista. Però io gliel'ho spiegato bene, Baudrillard poi non si capisce, secondo me. Cioè non gliel'ho spiegato, la questione della versione materiale, il referente. Non lo so, va bene. In realtà ci sarebbe da approfondire un po' su alcune delle cose che vedo più, che sono. Il pulsante sul supportone. Premi lo stato. Scusa, ma lo Saussure di che altro secondo te? Sulla questione da fare un po' di critica alle concezioni referenzialiste del linguaggio e rapporto con il mondo. Perché poi sono le cose che ci servono per parlare del posto di in maniera decente. Fallo tu. No, sono quattro robe, cioè due cose. Una delle novità concettuali di Saussure, che è quella che ha messo in luce prima la letta, ma credo che sia ulteriormente ribadita e spiegata meglio, è che la struttura del linguaggio non investe direttamente il rapporto linguaggio-mondo. Il rapporto tra significante e significato nel singolo segno e il rapporto tra significante e significato nell'insieme di segni che formano le concrete condizioni verbali non sono direttamente il rapporto linguaggio-mondo. La relazione... Quello che avevamo detto prima. Sì, no, ma questo vale... Allora, detto che il linguaggio è un insieme strutturato di segni, bisogna anche dire che gli insiemi di segni significanti sono a loro volta segni. Ecco perché prima volevo parlare di meta. Bisogna dirgli che anche una frase è un segno e anche una frase ha un rapporto significante e significato. Tutto l'insieme di frasi è un segno. Cioè, ogni testo è un segno. Tanto è vero che sulla base della linguistica consorturiana, una serie di persone nel corso del Novecento tentarono di fondare una nuova, diciamo, disciplina chiamata semiotica, e cioè una teoria generale dei segni che comprendesse la linguistica come un caso particolare. La mia idea particolare, personale, totalmente idiosincratica, è che ovviamente la semiotica è stata un fallimento, perché non esistono altri sistemi di segni sufficientemente ricchi se non quelli del linguaggio naturale. In modo particolare credo sia un totale fallimento ogni tentativo di semiotica della pittura, semiotica della moda, semiotica dell'arte in genere, a meno che non si vada a prendere l'aspetto linguistico di queste cose, nel qual caso si parte la lingua. io personalmente, però questa è una mia idea, non la concetto, ci sono fiori studiosi in Italia e nel resto del mondo che si sono dedicati a questa cosa, ma insomma la sostengono. La mia idea è che l'unico sistema che corrisponde alla definizione di sistema semiotico di Peirce e di Saussure è il linguaggio naturale. Cioè un sistema formato di unità di per sé non significanti, che acquistano un significato quando sono combinate tra loro, e questo studia la semiotica. L'unico esempio reale di questo coso è. Dopodiché si può fare una semiotica dei segnali stradali o una semiotica del linguaggio, ma è banale, è stupida. Però è come fare una come semiotica del linguaggio degli scimpanzé. Quando hai un insieme di 30 segni o di 30 vocalizzazioni che corrispondono ad altrettanti significati, è facile a cazzo, c'è una relazione 1 a 1 anche segnali stradali, cioè è una puttanata. Il triangolo vuol dire questo, il cerchio vuol dire questo, vabbè. L'ho detto. No, però c'è anche la combinazione dei segnali. Sì, quella combinazione, vabbè, però non è come quella linguistica. Lo dice, che no? È sempre un numero limitato. Beh, è un numero limitato. Risponde a un determinato tipo di significato. Sì, certo. Che è quello. Che è quello. Mm. E basta. Quando vado a cercare di fare una analisi semiotica. Cioè che il concetto non cambia. Certo. Che non ha. Ora, voglio dire, la cosa magica e la cosa interessante e importante del linguaggio è questa, è per cui l'uomo ha, per cui Homo sapiens ha un sistema di comunicazione e di espressione che nessun'altra specie animale ha su questo pianeta. Questa è la nostra, l'unica vera nostra caratteristica, cioè, insieme a quella di poter costruire degli oggetti partendo da delle cose, la nostra linguaggio, la tecnica. Questa cosa deriva dal fatto che la genialità del linguaggio qual è? È che i 30 o 30 o 35 mattoncini base del linguaggio, cioè i 30 o 40 fonemi differenti, di per sé non significano cazzo e significano qualcosa solo quando li combini. Questo basta per creare una potenza combinatoria senza limiti, infinita, quella che ciò si chiama la possibilità di produrre una infinità di messaggi, e il fatto che nessuno di noi si è mai trovato nella sua vita due volte di fronte a frasi esagerate. Nessuno di noi ha mai sentito. C'era una mia amica che prendeva posta le frasi dei film quando poteva. Sì, ecco, ma l'unica è quella. Noi produciamo della in continuazione le frasi differenti. Anche poco, ma anche in situazioni analoghe, eccetera. In particolare considero votata al fallimento ogni seria ipotesi di costruire una semiotica dei segni grafici, per esempio della pittura, della cosa. Perché semplicemente questi segni grafici sono segni che non sono linguistici, nel senso hanno già il simbolo della spada, ok, vado a fare una roba sul simbolismo, interessantissimo, eccetera, il modo in cui Giorgione o Tiziano, che cazzo ne so, mette insieme le relazioni, va bene, ma non è semiotica, non è un sistema, è un'analisi. E l'uso del termine linguaggio per tutte le cose che non sono linguistiche va anche bene, ma è la camicia metaforica. Sì. Il linguaggio dell'arte è metaforico. Sì, si può dire che è il linguaggio dell'arte, ma non è il linguaggio dell'arte nel senso che beh, per esempio, anche nelle mobilitazioni, l'utilizzo della parola linguaggio cambiamo il linguaggio. Largamente viene utilizzata la parola linguaggio non per indicare l'insieme di parole, ma dell'insieme delle pratiche attiviste che vengono utilizzate. Delle pratiche discorsive, è un discorso. Non è solo discorsi, no, se fosse già così, se fosse già tipo come parlano o come già saremmo avanti, alcune volte si intende il cambiamento di linguaggio come una modalità diversa dell'azione, cioè i linguaggi, abbiamo cambiato linguaggi, cioè è anche lì, anche nell'onda, quando si utilizzava questa cosa del linguaggio, perché l'onda rielabora, rifà i linguaggi, si utilizzava era di tipo metaforico, certo. Spesso la parola linguaggio per indicare un insieme di cose che magari il linguaggio non erano, cioè non erano parola parlata, certo. Né tantomeno non c'era nessuna registrazione del linguaggio, degli slogan, delle cose così, cioè proprio della lingua come parola, come suono, non c'era stata nessuna rielaborazione. Va bene, punto a capo. Proprio la linguistica di Saussure, la linguistica, tutta la linguistica, ci ha definitivamente chiarito che il rapporto linguaggio-mondo non solo è più complicato di come pensavano i linguisti del 600, non credo perché, tutti gli altri, perché tutta la storia, tutto il discorso che fa Saussure sull'arbitrarietà del segno serve per demarcarsi dalle precedenti concezioni del linguaggio, le quali più o meno tutte conservavano alcune tracce di quella fantasiosa idea che ci fosse una lingua originaria, nella quale lingua il rapporto tra parole e cose fosse in qualche modo magicamente preesistente, perfetto, e poi tutte le lingue successive non sarebbero state nient'altro che una corruzione di quella miracolosa lingua. La roba della torre di Babele, la storia biblica della torre di Babele, in realtà indica questo tipo di atteggiamento. Si capisce che le lingue hanno, ogni lingua di quelle esistenti ha un rapporto con il reale, con la realtà, musicato, ambiguo, sfumato, difficile, eccetera. E quindi si va indietro, Umberto Eco ha scritto un libro proprio su questa questione qua, si va indietro e si va a, come dire, cercare una mitica lingua ordinaria. L'indoeuropeo mitico dei linguisti dell'Ottocento era una trasformazione di questa idea. Ci sarà stata una lingua un tempo che esprimeva questo rapporto tra le parole e le cose meglio di come lo esprimono le lingue attuali. Come dire, concentrandosi in modo così estremistico e anche a volte violento, come, no? Sulla questione, no, è arbitrario il rapporto tra significato e significato, quindi non c'è un cazzo. Sì, diceva, non c'è questo. Non c'è proprio nessuna idea di. Era proprio per smascherare. Ma questa concezione strutturalista non solo ha fatto piazza pulita di queste cose, ma anche della forma debole, diciamo, di questa diciamo, teoria, di questa che potremmo chiamare teoria denotativa del linguaggio. La forma debole è vero, non esiste nessun modo perfetto per, ma in realtà il linguaggio in quanto tale aspirerebbe, tenderebbe, ogni linguaggio, ogni lingua naturale aspirerebbe e, diciamo, tenderebbe ad un rapporto trasparente e il più possibile biunivoco con la realtà. Questa, diciamo, concezione che possiamo chiamare concezione denotativa del linguaggio, che dice il linguaggio serve per descrivere il mondo e la descrizione del mondo si può cercare di renderla sempre più perfetta e sempre più eccetera eccetera. Applicata alla mente umana, cioè nella sua variante, il linguaggio serve per descrivere i processi mentali, che è una cosa diversa da quella che c'è sotto Saussure, che serve per mettere ordine, è quella che ha portato i logici del corso dell'Ottocento e del Novecento a cercare di costruire cercare la struttura logica del linguaggio in modo diverso e costruire una sorta di struttura perfetta del linguaggio, della diciamo, componente logica del linguaggio e del pensiero, identificandola con il pensiero. È un altro genere, è un altro tipo di concezione denotativa, che ovviamente è più difficile da scalciare di quelle, come dire, precedenti, e che però è stata, per fortuna nostra, diciamo, scalciata dall'interno stesso di quelle diciamo, ricerche, perché i teoremi di Gödel che ci hanno assicurato che nessun sistema di logica matematica formalizzata che sia capace almeno di rappresentare l'aritmetica, quindi la parte più semplice della matematica, in un sistema di questo tipo esisterà sicuramente un teorema vero che non è dimostrabile. Quindi la non meccanizzabilità dei processi dimostrativi. C'è sempre bisogno di un sistema superiore che spiega quello inferiore. Cioè non è... non riesce a trovare un sistema che si auto giustifica. L'autoreferenzialità e l'autogiustificazione dei sistemi è impossibile. Perché non è possibile una corrispondenza completa tra linguaggio e sintassi e semantica di un certo tipo. Quindi questa non corrispondenza, questa discrasia, queste zone di ombra tra la sintassi e la semantica nei linguaggi naturali si trovano anche nei linguaggi formali. Però comunque non si arrendono, perché no, continuano con l'intelligenza artificiale, e vanno avanti, e vanno avanti, nonostante i teoremi di Gödel. Se volessimo fare quindi una, come dire, in breve, una, se volessimo dare una figurazione del rapporto tra linguaggio e mondo come è prefigurato dalla linguistica sussuriana e successivamente poi un po' da tutta la linguistica strutturale, e che non andrebbe bene forse per la linguistica di Chomsky, però che invece... Ma quella non ce ne frega niente. No, però per dire però, che Chomsky, il più grande linguista del Novecento dopo Saussure nega Saussure. Allora, dal punto di vista saussuriano potremmo dire che nel linguaggio ci sono tre strati significanti e tre insieme, perché ci sono tre strati significanti anche in qualunque attività umana. Quando Saussure dice c'è un livello del significante e un livello del significato e poi c'è un livello del mondo, quindi il rapporto tra linguaggio e mondo, perché il linguaggio è così ricco? Perché ha questa tripla classificazione e non doppia. Ogni concezione denotativa del linguaggio, che ritenga perciò che siano solo due, ogni concezione denotativa dice che ci sono due livelli, cioè quello del linguaggio e quello del mondo, i significanti e il mondo. No, ci sono i significanti, i significati che sono processi mentali e il mondo. In ognuno di questi passaggi si perde qualcosa e se ne acquista qualche altra. Era quello che volevo dire con la questione della virtualità del reale. Esatto. Virtualità del reale significa che il reale, che ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quelle che penso la sua filosofia, per pensare certi, e però anche ci sono più cose nel linguaggio di quelle che sono nel mondo. Paradossalmente questa strettoia, questo imbuto che è il livello del significato sussuriano, che non è il mondo, cazzo, non è il mondo il significato, è l'immagine mentale del mondo. C'è il mondo, c'è la realtà, c'è qualcosa che sta fuori di noi, c'è l'insieme, c'è l'immagine che ha una continua relazione, perché il contenuto e l'attività mentale influisce su questo. Il mondo influisce su questo. Poi c'è il modo magicamente semplice. Diamo significati alle cose. Eh sì, diamo significati, cioè diamo un significato alle cose. Le cose per sé non danno significato, no? Che è la stessa roba che diceva Lévi-Strauss. No, non diamo significato alle cose. Noi diamo, non so, diamo ho usato significato in un senso non sussuriano e non in senso tecnico. Nel senso che creiamo un'immagine sonora, un concetto che corrisponde a una cosa nella realtà. Sì, allora, diciamo, noi cerchiamo di dare senso alle cose. Per dare senso alle cose abbiamo bisogno di un segno. Questo segno è qualcosa che irrimediabilmente istituisce due livelli dentro di noi. Un livello materiale, il suono, e poi volendo anche la sua immagine sensibile, anche la sua immagine scritta, volendo, e il significato, che è un contenuto mentale, una categoria, un insieme di categorie, la concretizzazione di una attività, come dire, mentale. Quindi gli strati sono tre. Il livello dei significanti, la materialità del linguaggio, l'insieme dei suoni, è il corpo però che lo emette. È il corpo che lo emette. Cioè, allora, cioè, lo emette, che è il corpo. Se mi posso permettere, il corpo, volevo arrivarci, perché è quello che chiude il cielo. Perché il corpo, che è ciò che produce questi suoni, e attraverso attraverso le leggi di accoppiamento tra significante e significato mette in relazione questi suoni con i nostri contenuti mentali e ci permette di dare senso al mondo, il nostro corpo è qualcosa che fa parte del mondo. Della produzione di massa. Non l'abbiamo creato noi. Il corpo è l'elemento che ci connette, che ci distanzia dal mondo e ci connette con lui. Quindi che ci distanzia. Guarda che il femminismo parte tutto, quando dal corpo. Può finire, può finire. Io cioè, è proprio, cioè, l'innovazione del femminismo è proprio la cosa del femminismo, la cosa del corpo. Il nostro corpo insieme ci distanzia dal mondo e insieme ci riconnette. Vabbè, questo è quello che dice lui, questa è una cosa che dice lui, sì, ma questa è una sua considerazione, certo, lo distanzia perché tu ti costituisci come corpo dell'uomo, sì, ma questa è una sua considerazione che però poi, cioè, è difficile poi, è la storia dell'antropologia, il corpo umano è un corpo, il corpo umano è un corpo linguistizzato, è un corpo su cui, sul quale, senti, i vestiti sono la traduzione. Scusa, gli studi sul linguaggio del corpo? Sì. Ce ne sono stati. Sì, e ma mi stati li ha fatti. Oh, no, aspetta, faccio fare un'idea di questa cosa. Poi dopo possiamo. Prima fammi capire. Poi quello che dico io, mica ve la faccio per una. Cioè, è ovvio che vedete che ci siamo capito. Io la penso così. Io e tanti. Facciamo un riassunto di Saussure e poi facciamo ancora il corrispettivo con Baudrillard, no? No. Sì, vabbè, continua a dire. Comunque, no, il rapporto di Saussure il riassunto di Saussure è chiaro. Il rapporto linguistico tra uomo e mondo prevede tre diversi livelli. Il livello del significante, la produzione materiale, nel senso di sonora, linguistica, che costituisce la materia linguistica. Strutturata con delle relazioni interne che fanno in modo, sono queste relazioni che fanno in modo che il segno materiale si costituisca come segno, cioè come rapporto tra significante e significato. Il significato e il significato non sono scindibili, ma sono analizzabili diversamente su due piani. Il terzo livello è quello del mondo al quale il linguaggio dà un senso attraverso i concetti mentali organizzati linguisticamente nei significati. Quindi sono tre gli strati di questo rapporto: significante, significato, mondo, significanti, significati, mondo, elementi del mondo. In questo rapporto si crea una eccedenza del reale rispetto al linguaggio e una eccedenza del linguaggio rispetto al sussurro. Non è Saussure, stai uscendo fuori, Beh, ti sto spiegando Saussure un secolo dopo, perché tutti gli studi... Ma se serve riuscire a riassumere lo schema di Saussure per riuscire sto a... Sto spiegando Virgo. Infatti, bisognerebbe riassumere Saussure per riuscire a fare la corrispondenza con la teoria del valore di Marx. Ok, allora, la prima cosa di Saussure è, i concetti principali di Saussure per ricordare sono... Il segno come unione di significante e significa. Qui ci siamo. Aspetta. Sono queste cose. Allora. Segno uguale. Una parola uguale. Segno o parola. Questa cosa. Uguale significante significato. No, scrivi significante barra significato. Uguale. Molti commentatori hanno detto che il segno non è altro che la barra che sta tra il significante e il significato. Cioè, sì, sono il rapporto. Sì, il rapporto tra significante e significato. Okay. La parola è mio, è la relazione. Parola uguale significante barra significato, perché la barra è la relazione, la relazione. Il rapporto, cioè rapporto. Okay, ci siamo. Okay. Secondo, no, poi da questa parola sta all'interno della lingua, però è l'interno della lingua. L'insieme dei segni costituisce una lingua. I livelli della lingua sono due: il livello della produzione linguistica concreta, che è idiosincratica, idiolettica, individuale, soggettiva e quindi diversificata a seconda dei soggetti, questo è il regno della parole, e la langue. La langue è la struttura che consente alle singole parole di comunicare tra loro, di riconoscersi e di... Chi parla una stessa lingua parla la stessa lingua perché si riconosce nella struttura della langue. Si dà uno studio strutturale solo della langue. Mm-hmm. Soltanto la langue ha una struttura, non la parola. Ok. Secondo livello. Terzo. Poi, le relazioni tra le parole. Prima delle relazioni prima diciamo questo. La struttura di ogni lingua consiste in un insieme di opposizioni distintive. Questo non lo abbiamo detto in modo chiaro. La struttura della lingua consiste in un insieme di opposizioni distintive, cioè i singoli elementi delle produzioni verbali, delle frasi, degli insiemi di frasi, hanno delle relazioni tra loro che sono, che dice Saussure, si possono tutti identificare come delle opposizioni distintive, cioè dico questa parola perché il suo significato è lo zucchero sta sul tavolo, oppone il termine zucchero come soggetto al termine tavolo come complemento, oppone il termine zucchero come soggetto di una proposizione al termine sta come verbo che indica un'azione, una condizione, quindi opposizione. Queste opposizioni sono le relazioni. Queste opposizioni sono le relazioni. La struttura di un linguaggio è formata da un insieme di varie diverse opposizioni distintive. Quindi c'è, in altri termini, la tradizionale analisi grammaticale e analisi sintattica o logica di una lingua sono soltanto il livello superiore di una struttura più di fondo di una lingua che è basata sull'insieme delle opposizioni. Ma le opposizioni distintive non sono le relazioni paradigmatiche e sintagmatiche? Sono sia paradigmatiche che sintagmatiche. Le opposizioni distintive costituiscono la struttura di una frase, sono di due grandi famiglie: opposizioni in presenza o sintagmatiche, opposizioni in assenza o paradigmatiche. Cioè opposizioni tra opposizioni e relazioni tra i singoli elementi della struttura linguistica, per esempio all'interno di una frase, di una frase o di un testo. Quando andate a vedere l'Ulisse di Joyce potete fare una analisi linguistica anche di pezzi molto distanti tra loro. Quando la stessa parola o lo stesso insieme di parole compare due volte nel romanzo, potete andare a fare, si fa un'analisi di singole frasi ma anche di macro testi, cioè ogni testo è, per quanto lungo sia, è un segno. Ha una struttura di segno, ha un significante e un significato. Quindi, opposizioni in presenza o sintagmatiche, opposizioni in assenza o paradigmatiche, cioè le opposizioni che rimandano a tutte quelle liste di parole, categorie grammaticali o funzioni logiche che io posso o questi sono i caposaldi della... Tutto quello che ho detto prima non era più, ma era Virno Caronia. Virno Caronia con una variazione sul femminismo che non condivido. Una variazione che non condivido, però. No, perché con l'idea del corpo. No, perché non è oppositiva al mondo, ma è conoscitiva del mondo. Perché comunque non c'è questa necessità di ritornare al corpo perché è abbastanza. Perché non ne siamo mai usciti. No, infatti, questa è un'astrazione maschile. Vabbè, questa è un problema. Ma... perché siamo tutti usciti da un corpo femminile, non per questo. Questo è il problema. È il problema. Cioè, i vantaggi. Va bene. Ok, ci siamo. So sure, basta capire questo. Ci siamo. Facciamo ma il schema? Se facciamo. O facciamo un ultimo step o se no io passo, ma subito, perché sennò già mi sto... Ma aspetta, ma non solo per iniziare la corrispondenza. Veloce allora. Ok, no, però aiuta. Allora, nel periodo di Bobano, Bodriglia scrive questa cosa... questa cosa cosa? Lo scambio simbolico nel 74. Ok, capiamo bene. Però praticamente in quel periodo l'economia aveva cominciava a subire dei cambiamenti fondamentali, che erano quelli dei cambiamenti che erano quelli della l'introduzione di un sistema che era l'emergere maggiore, perché già c'era comunque quando è iniziato il mercato finanziario. Però nel periodo in cui scrive Baudrillard il mercato finanziario comincia ad essere la forma di mercato dominante rispetto a quella della produzione delle merci. Per il mercato, in realtà sul mercato finanziario quello che si scambia non sono merci. La cosa che si scambia, mi dimenticherebbero qua, è prevalentemente il denaro. Beh, il denaro è una merce. Sì. aiutami nello schemino. Non è che si scambia denaro. Il mercato finanziario è, nel mercato finanziario le merci che si scambiano, che sono merci, non sono quantità di denaro che corrispondono a me, ma sono ipotesi e aspettative su come una data quantità di denaro potrà fluttuare in certe condizioni e in certi limiti. I futures non sono altro che scommesse, diciamo, intenzioni di... Se io scommetto tot soldi sul fatto che il prezzo del grano nel mercato di Nuova Delhi tra un anno sarà di tot dollari alla libra, di tot dollari virgola centesimi alla libra. C'è una tolleranza di errore. Se fra un anno io ho previsto giustamente quella certa cosa, quella mia obbligazione mi frutta dei soldi, se no vale carta straccia. Comincia con gli anni 70 un settore dell'economia che oggi è predominante, che è quello che l'anno scorso, che è crollato rapidamente, in cui cominciamo a non scambiare più, non solo non scambiamo più merci materiali, non solo non scambiamo più una particolare merce che è il denaro, se comunque corrisponde a un tot di mezzo o due, ma cominciamo a scambiare ipotesi, congetture, storie, pezzi di immaginario, supposizioni su come si comporteranno certe merci o certe altre cose. Okay. Che cosa scambiamo? In realtà, cosa scambiamo? Allora, se tu prendi adesso l'insieme di una frase, che cos'è? No, scusami. L'insieme di una frase verso su, che cos'è? Segni. Cambiamo segni. Comincia una economia politica del segno. Baudrillard nel 72 il suo libro si chiama Per una economia politica del segno. Baudrillard è un filosofo francese di provenienza marxista. Se voi fate su schemino questa cosa. Valore d'uso, valore di scambio. Cioè lui, tu hai un prodotto. Un prodotto, no? Prendiamo Max. Un prodotto ha dentro il valore d'uso, cioè i bisogni a cui questo prodotto risponde, come è stato fatto, bla bla bla, la scarpa, diciamo, no? Valore d'uso, la uso per mettere i piedi. Poi il valore di scambio, che dipende dal sistema, dal modo di produzione, abbiamo detto. E poi abbiamo visto che può essere diverso. A parte che c'è pure la della società dello spettacolo. Quindi valore d'uso, valore di scambio. E sotto dovete mettere significante, significato. Ok? Allora, in Baudrillard dice, nel mercato della finanza, noi non scambiamo più, cioè si perde il valore d'uso, perché io non ho una merce, non ho un prodotto. Non c'ho neanche merce. Non ho un prodotto, cioè una merce c'è, perché la merce è, il prodotto diventa merce quando c'è un valore di scambio. Ok? Ma non ha più valore d'uso, non è un prodotto, più valore d'uso, senza valore d'uso. E lui fa corrispondere il valore d'uso al significato. Certo. Ok. Allora, per Baudrillard, lui dice che quello che noi incominciamo a scambiare nel mercato sono i significanti. Nemmeno i segni, però. Proprio significanti, senza nessun referente. È la prima volta nella storia codice. Che... Infatti lui utilizza il termine codice. È totalmente codice. Sottolineiamo questa cosa. Non abbiamo detto perché, questa è una descrizione sul perché non sappiamo. Descriviamo per il momento, vediamo se è possibile descrivere l'economia finanziaria come un sistema linguistico di tipo particolare. Baudrillard giustamente osserva che il valore d'uso è ciò che lega un segno al mondo materiale. No? Cioè, il valore d'uso è la parte materiale. Diciamo la parte materiale. Prodotto. La parte materiale è ciò che lega, cioè se questa scarpa serve a qualche cosa, cioè, il suo valore d'uso è ciò che dice, bene, questa scarpa certo è una merce, quindi è una cosa astratta, il denaro, però serve pure a qualcosa. Quindi il valore d'uso della scarpa è ciò che lega la scarpa, ciò che lega la merce scarpa al mondo materiale. Il denaro che compra la scarpa ha un passaggio in più, però alla fine, se è un segno che comunque serve per comprare degli altri segni che servono poi alla fine a qualche cosa, un qualche legame con il mondo materiale c'è sempre. Quando tu crei dei segni, quindi quando tu hai un valore di scambio che contiene un certo, che tiene un riferimento, una referenza al valore duro, che è ancora collegato con un valore duro, sia pure lontano, hai un segno che conserva un referente, un referenziale, ha una sua referenzialità. Quando tu invece scambi tra di loro dei segni che per qualche strano processo hanno perso questo contatto con il valore duro, quindi hanno perso qualunque referenza, la realtà tu hai dei segni senza referenti. Cos'è un segno senza referenti? È un puro significante. Qualcosa che non è qualcosa mai... che sta al posto di qualcos'altro, di chi però non si sa che cos'è. Che non si sa che cos'è. È una cosa completamente astratta. Sì, pura astrazione. Cioè pure... diciamo, allora, lui la definisce codice. Sì, cioè, codice. Lui chiama codice. Forse se gli diamo la definizione medievale di segno, vabbè, i semiotici moderni hanno perché in parte c'è stata anche nella teoria medievale, c'era una le teorie dei segni erano già, diciamo, trattate prima che ci fosse la semiotica, e c'è una famosa definizione che è stata ripresa prima da Peirce e poi da Eco per dire che cos'è un segno. In latino è aliquid pro aliquo, qualcosa è qualcosa che sta per qualcos'altro sotto un certo rispetto. Un segno è qualcosa che sta per qualcos'altro sotto un certo rispetto. Il fumo è un segno del fuoco, è qualcosa che sta al fuoco sotto il rispetto visivo. Se io vedo del fumo di lontano, anche se non vedo il fuoco, so che c'è del fuoco, quindi il fumo è un segno del fuoco. Ogni rapporto di segni, quando c'è questo rapporto onesto di un segno tra il significante e il significato o il referente materiale, diciamo più o meno le cose funzionano come vedo del fumo, se non sono dentro Second Life e se non c'è qualche mezzo strano per produrre fumo senza avere fuoco, io sono praticamente sicuro che se vedo del fumo ci sarà del fuoco. Quando questo aliquid pro aliquo, quando questo pro aliquo scompare, quando c'è qualcosa che sta al posto di qualche altra cosa, ma io non so che cos'è quest'altra cosa, o addirittura suppongo che non esista, il rapporto tra significante e significato nel segno risulta malato, perché il significato, se anche c'è come costrutto mentale, come dice, lo perdi e soprattutto non ha più nessun riferimento con il mondo reale. I significati sussuriani avevano riferimento con il mondo reale, erano concetti mentali, ma erano qualche cosa che aveva una corrispondenza arbitraria, vaga, con qualche processo reale. Adesso questa roba non c'è più. Quindi l'economia politica del segno, secondo Baudrillard, è una economia nella quale c'è un codice, cioè un insieme di significanti che hanno relazioni tra loro, che quindi sono combinabili sintatticamente e quindi possono produrre profitto da un punto di vista della diciamo, traduzione economica, ma in cui si è perso qualunque riferimento con la cosiddetta realtà. Cosa provoca un casino? Questo provoca un casino. No, vabbè, questa, è l'inizio dell'elaborazione di quella che viene considerata la produzione immateriale. Questo libro di Baudrillard è in netto anticipo rispetto a ogni analisi del post-fordismo. Allora, in Marx abbiamo detto che il sistema capitalistico ha come unico obiettivo quello di produrre ricchezza. No? La produzione di ricchezza avviene sempre attraverso la produzione di merci, ma l'obiettivo fondamentale di un sistema capitalistico è quello di produrre ricchezza, denaro, no? Perché il rapporto è denaro, merce, denaro. In un sistema come quello dell'economia del segno, l'unico obiettivo del sistema capitalistico è riprodursi, cioè fare in modo di sopravvivere, riprodursi all'infinito, fare in modo che questo processo di produzione riprodursi allargandosi sempre più. Per esempio, tutto quello che è successo sulla questione delle banche, i soldi, le cose, è crollato perché non c'era nessun referente, tutti questi soldi venivano scambiati. E a un certo punto, c'è una corrispondenza con la realtà. Sì, a un certo punto questo scambio di significanti ha mostrato quello che era la sua natura, il fatto di essere totalmente astratto, inconsistente. Non aveva concetti. Eppure non aveva, ma non ho non funziona. Non avete reato. Se fate. Se, ah, se... il terzo passaggio era assente, quello di corrispondere con il mondo. Con il mondo, certo. Quello lì si toglie tutto. Se voi fate. Se voi fate una storia, una storia della massa di soldi, di denaro. In circolazione geniale questo che da quando nascono le prime civiltà, l'economia e Cina eccetera ad oggi, vedete che in una prima fase a lungo per tutta la fase troppo storica e per la antichità classica, da quando nasce il denaro per tutta fino alla caduta dell'impero romano, la quantità di denaro in circolazione è minore e in certi casi fortemente minore rispetto ai beni che sono in circolazione. La ricchezza reale supera quella monetaria, con una preoccupante tendenza però sotto i regni alessandrini e poi sotto la prima parte dell'impero romano ad aumentare. Quello è il momento della storia che comincia ad aumentare, raggiungendo probabilmente, in un certo momento a ricoprire, ad avere una uguaglianza tra massa monetaria e beni prodotti, diciamo ricchezza reale in circolazione. La caduta dell'impero romano genera un processo per cui l'economia ristagna praticamente e il denaro in circolazione torna a con livelli molto bassi. Diminuisce molto anche la ricchezza, come dire, però diminuisce anche molto il mercato, per cui di nuovo per tutto il Medioevo, come nella antichità classica, questo tentativo di della ricchezza monetaria, della massa monetaria di uguagliare la ricchezza reale va diciamo indietro. Però rapidamente, alla fine del Medioevo, la ricchezza monetaria, la ricchezza reale, la ricchezza materiale aumenta anche la massa monetaria. C'è la corrispondenza all'inizio, tra le due. All'inizio del capitalismo comincia ad esserci una quasi, nel XVII secolo c'è quasi una corrispondenza. Una corrispondenza 1-1, cioè la massa monetaria uguale alla prodotta. Dal XVI secolo in poi, con un ritmo vertiginoso e mai visto prima, la ricchezza, la massa monetaria supera da prima di una volta e mezzo, poi due, ora siamo a quello a. Ma adesso comunque 100, sono 100, soltanto segni, non è una massa monetaria, cioè i segni che stanno monetaria. A indicare. Sono soldi su cui la gente, su cui gli stati fanno i loro bilanci. Il prodotto interno lordo, tanto da giù, è tutta fuffa, cioè non esiste, cioè i beni reali, per quanto grandi siano, sono molto più di prima i beni reali, ma la cosiddetta ricchezza della nostra società, calcolata in massa monetaria, è qualcosa che supera probabilmente ormai di quasi 50 o 60 volte la ricchezza reale. È come una trottola che gira rapidissimamente, ma una volta che c'è un incepo, la trottola cambia. È vero che adesso gli stati incominciano a finanziare le banche, cosa che non ha... Tutta la storia. Allora, perché tutta la storia? La prima cosa che hanno fatto in tutto il mondo è stato salvare le banche. Perché sono le banche, e le banche non hanno, cioè, le banche sono quelle che ammazzano, strozzano i produttori di merci più o meno reali. Comunque, dire noi la crisi come vogliamo significa far crollare questo sistema. Cioè significa non accettare che questa cosa, aumentare che la massa monetaria superi ancora di gran lunga ce ne fate il cazzo, dateci la massa materiale, la ricchezza materiale. Ed è la stessa ragione per la quale l'unica rivendicazione seria in questi casi è chiedere un reddito. Allora, un reddito, infatti lui dice questa cosa. Noi non possiamo morire di fame. Se però le attività produttive di ogni tipo comunque diminuiscono, lui dice così: salario massimo per un lavoro minimo. Questa è la parola d'ordine. Escalation della rivendicazione, il cui risultato politico potrebbe benissimo essere quello di far saltare il sistema dall'alto, secondo la sua stessa logica del lavoro senza presenza forzata, come presenza forzata. Perché allora, e non più in quanto produttori, che i salariati intervengono, ma in quanto non produttivi. ruolo loro assegnato dal capitale, che essi non intervengono. Vabbè, questo è poi complicato, perché poi c'è tutta la questione della, del lavoro prestato, che, cioè che il lavoro. Cioè del fatto che Baudrillard dice che gli operai ci sono ancora, però. E questo perché? Perché ci sono ancora? Per garantire tutta una serie di forze politiche, e anche per fare in modo che questo, per garantire la sopravvivenza di questo sistema di scambio dei segni. E infatti poi lui dice che anche i sindacati e la forma di rappresentanza dei partiti o dei sindacati è assolutamente inutile, perché ormai comunque il lavoro non è quello dell'operaio, ma il lavoro è quello del segno. Infatti lui ribadisce l'importanza, per esempio, degli studenti in quanto lavoratori, cioè che producono ricchezza senza essere definiti lavoratori. Cioè, quindi è un inizio di quello che è quello che poi è considerata tutta della produzione immateriale. Se della... pensate che è un testo del 74, no, 76. Comunque per un come la politica del 72 è ancora e quindi non è che no, ah, aspetta, 76. Certo. Veramente lui lo fa dal suo punto di vista, però c'ha tante delle cose che sono veramente precise, insomma. Sì. Vabbè, alcune cose sono perché lui comunque spinge un po' alla bifo, non dice, se è morto dobbiamo dichiarare che è tutto morto, che non ha senso che... sì, no, nel senso che comunque ha un atteggiamento di quelli che poi la gente, cioè, rimane anche spiazzato, nel senso, nel libro gli dà una visione, dice, questo è morto, questo è morto, quest'altro non serve a niente. Però il concetto di morte per lui è come il morte, il lavoro morto di Max. Vabbè, quello spiegheremo. Vabbè, la prossima volta ricominciamo rispiegando solo le cose. Sì. Quando è la prossima volta? Domani. Allora.